allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La cosa, aspetta, come si chiama? Il programma Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Oh ragazzi, io sono un po' preoccupato perché vivo in Lombardia, come sapete, qui a Milano, e mi informa la regione che ci sono 5 milioni di nutrie. 5 milioni di nutrie, una ogni due abitanti. Cioè accanto a me, tra me e non te, tra me e i ragazzi al di là del vetro c'è comunque una nutria e mezzo. Cioè c'è io, una nutria, un'altra persona, una nutria, eccetera, capito? Chiediamo che vengano usati metodi cruenti. Altre soluzioni non sono perseguibili. Cioè, per la regione Lombardia, dove vivo, bisogna fare una sorta di massacro di nutrie. Lo sterminio delle nutrie. Voglio sempre ricordare una gentile signora che tempo fa disse: ho adottato una nutria, è meglio di avere un figlio. Le do la pasta, la porto ai parti, la notte mi chiama, non causano malattie e nemmeno inondazioni. La gente le odia solo per ignoranza. I bimbi non mi sono mai piaciuti, mi disturbano. Mi stressa molto più un bimbo che piange di un cane che abbaia per ore. Non voglio sminuire l'importanza dei figli, per carità, ma riesca a instaurare un rapporto migliore con gli animali. Psicodramma 5 stelle a quarto. La camorra, infiltrazioni, l'espulsione del sindaco, la signora Capuozzo, circondata da Grillo e Casaleggio, che prima l'hanno difesa e poi l'hanno scaricata quando hanno visto la malaparata, quando la purezza dei 5 Stelle è stata leggermente scalfita, forse da qualche imprudenza del sindaco, che comunque non è indagata e che noi della Zanzara difendiamo a spada tratta. Il sindaco, la signora Rosa Capuozzo, non si vuole dimettere e scoppia il casino. Addirittura il famoso direttorio dei 5 Stelle, tra cui il napoletanissimo Di Maio, dice: noi non sapevamo niente, nessuno ci ha parlato di Ricatti. No, ma è anche possibile questo. No, ma la cosa ridicola è l'atteggiamento. Perché prima tu la difendi dicendo che i voti della camorra non sono serviti a eleggere il sindaco, eccetera, eccetera. Giustamente difendi il sindaco, perché fino adesso non ci sono indagini. Ma oggi risulta una cosa tira diversa. Cioè risulta che la signora il sindaco ha parlato di queste presunte pressioni con i suoi consiglieri dei 5 Stelle. Sì, sì. E però lei dice che sono pressioni politiche, che non doveva denunciare niente. Comunque, ragazzi, chi se ne frega di tutte queste cose? I 5 Stelle, il direttore, i grandi capi si chiamano fuori dal casino in questo modo. Ti sta dicendo che io e Roberto Fico sapevamo della minaccia, sta dicendo una falsità e sarà querelato. Abbiamo già sentito i nostri avvocati e quereleremo ognuno di coloro che dirà questa bugia. Io e Luigi non abbiamo mai saputo di nessun ricatto, di nessuna minaccia, di nessuno scambio tramite minaccia per ottenere qualcosa. Allora, tanto per tornare alla vicenda di Colonia, caro Parenzo, qualche giornale tedesco ha reso note le deposizioni. Quello che ha scritto la polizia, quello cioè, che ha scritto la polizia, polizia. A tutti hanno cercato di infilare dita nella vagina. Non riuscite grazie ai collant. A tutte sono state palpati semi, sedere. Una vittima è stata penetrata con un dito. Alle donne sono stati rubati soldi, documenti, cellulari e carte di credito. Capito? Eh sì. È inutile essere ipocriti, ragazzi. Infatti si è dimesso il capo della polizia. Non tutti gli islamici. Si è dimesso il capo della polizia. Non tutti gli islamici. E intanto la Germania ha detto che sicuramente saranno cacciati più facilmente gli autori di alcune cose. Stanno rivedendo il meccanismo di espulsione, sul diritto di asilo anche. Per allora, cui... la cosa molto chiara è che, ormai evidente, è che, perché mi hanno scritto in molti, raccontandomi vari episodi che sono successi in tutto l'Islam, cosiddetto anche moderato, eccetera, è che non riguarda ovviamente tutti gli islamici, però questa usanza, questo disprezzo che c'è diffuso nei confronti delle donne e questo ruolo inferiore che hanno le donne nell'Islam, non c'è dubbio, beh, porta molti a pensare che si può abusare tranquillamente delle donne. Ed è questo il discrimine, la cosa fondamentale tra la nostra società e quella dove governa anche l'Islam. Questo è il punto. Non credo che c'entri questo. No, c'entra moltissimo. Non credo che c'entri questo, perché altrimenti... Ma tu lo sai che in Germania sono andate a rubare le copie del Mein Kampf di Hitler, ristampato dopo 70 anni? Sai che potrei regalarti una copia del Mein Kampf? Ma c'è la parte che ce l'ho già, che sarebbe un regalo. Io ce l'ho già, l'ho anche letto a pezzi, l'ho studiato quando andavo... Al liceo. Libro di una noia mortale, No, di una ma noia è un libro da leggere, basta che qualcuno poi te lo spieghi, lo contestualizzi e te lo spieghi. Ma è un libro, perché chi dice che hanno in vedi però la differenza tra la Germania e l'Italia qual è? E nessun pippone, ma qual è? Ecco, che la Germania, per quel che è successo là, si addirittura si interroga sul fatto se sia utile o meno ristamparlo. L'hanno, no? L'hanno già deciso. Ma è un paese in cui non mi pare ci sia libertà limitata, però si sono interrogati per anni. Questo l'abbiamo saputo. Però questo è interessante. Invece qui... Allora senti Librandi, il mitologico Librandi, a Colonia i maschi. No, c'entra la Germania, parla di Colonia. Librandi, a Colonia i maschi tedeschi erano conigli. Cioè, dice, ma dove erano i maschi tedeschi? Dov'erano? Però adesso il parere di Librandi non può essere su tutto. Cioè Librandi sul primo uomo sulla luna, deputato Librandi... di sciolta civica, no, eccetera ma eccetera. Perché adesso Librandi su tutto, su ogni cosa. Cosa ha detto Librandi? No, ma senti, Librandi sul Blitz a Colonia, Librandi su Donald Trump, no, Librandi capito. Su Cuneo, ma no, Librandi, vabbè, viene invitato tutto, nelle trasmissioni dove si parla di qualsiasi cosa, come sai, si parla moltissimo di Colonia, degli stupri, le dita nella vagina, Librandi eccetera. Librandi su Colonia, vediamo. Dice che i maschi tedeschi erano conigli assenti, dunque se la prende con i maschi tedeschi. Ma dove sono i maschi tedeschi? I maschi tedeschi, la pura razza ariana, mi sembra una pura razza di conigli invece, no? Perché non hanno difeso le loro donne, invece loro dovevano difendere le loro donne. Ragazzi, ma siamo impazziti o no? Cioè, siamo alla follia o no? Dovevano difendere... Effettivamente molti si potevano chiedere perché c'erano quelle ragazze sole, diciamo, non accompagnate, ma per fortuna nel mondo occidentale libero le ragazze a mezzanotte, a luna, le donne a mezzanotte, a luna possono girare sole per le nostre città, questo accade, no? Per cui non c'è nessuno stupore a vedere tante donne sole circondate da islamici, la maggior parte islamici violenti che le volevano palpare. E poi volevano anche rubacchiare qualche portafoglio, così, dato che c'era, no? Allora, però, che cozzalone. L'altro giorno, il signor Verdone ha detto una mezza minchiata, diciamo la verità. Cioè, cosa ha detto il signor Zalone? Cioè, anzi, Verdone prima ha detto, vabbè, ma se uno occupa 1200 sale, in pratica, beh, poi è facile, no, fare i campioni di incasso. fare i campioni di incasso. Beh, questo però sulla distribuzione è vero. Sì, come te, vabbè, ho capito, ragazzi, ma non è che distribuiscono tutti i film a cazzo di cane, perché già lo sanno che quello fa gli incassi, no? Ed ci sono gli esercenti che dicono. Ma che c'è l'occupazione di Zalone, cioè che dai, su, ha detto una minchiata. Giustamente Zalone dice così. No, che, ma è che ma Verdone discorso, ha detto una cazzata. Non è l'unico che l'ha detto, però, eh. Cioè, sì, anche ma, altri, ma questo è l'erosicamento, dai, è l'erosicamento degli altri. Quello, gli esercenti dei cinema prendono i film di Zalone perché sanno che la gente ci va, altrimenti non lo prenderebbero. Non è che c'è l'occupazione militare di Zalone, non esiste una cosa del genere. È chiaro, no? Che se un film ha una distribuzione migliore di altre, perché comunque sì, dietro c'è Medusa, sì, c'è Media, ma non è che può dire che 50 milioni può funzionare di più. Sì, ma non è che 50 milioni sono se a in una la sala del Viperetta prendiamo a Roma, no? Visto che ti piace tanto il Viperetta. Il cinema, non voglio dire il nome del cinema, le sale del Viperetta. Se in una famosa multisala del Viperetta dove ci sono 10 sale, 7 sì, sono tutte occupate dal mitico Quo Vado, è chiaro che anche gli altri film in uscita avranno una minore possibilità di entrare in sala. Ma questo è un discorso proprio abbastanza basico, però. Nulla toglie al successo di Zalone, eh. No, però ragazzi, no, però, allora, qui, si fa però... capire, qui si fa capire che il successo di Zalone è una specie di complotto. No, ma chi ha parlato mai di complotto? Anzi, vabbè, quando uno dice occupa 1200 sale, funziona, allora passaparola, però sicuramente la distribuzione massiccia. Ma la distribuzione su 10 sale, ho 7, capito, 6, però, amico mio, di Checco, amico, adesso qui bisognerebbe interrogare l'esperto, il mio amico esperto Guido Bagatta. Il punto è un altro, il punto è un altro. È vero che ci può essere una facilitazione se tu sei distribuito in più sale, d'accordo, però un esercente non è che distribuisce il film di Chiarosta, il film di un giapponese che ci fa due coglioni così. E dai, su. Abbas Chiarostami. Vabbè, ma quello che è? Quello va no, due giorni e poi chiudiamo. Due giorni e poi chiudiamo la sala cinesca. Perché ci rompiamo i coglioni. Giustamente la gente non ci va. Invece, magari un film bellissimo che può essere visto a casa, può essere visto, no, in cineteca, queste cose qua. La distribuzione tu l'hai visto o no? Ancora non l'ho visto, lo sai? E allora di che parli? Io sono andato a vederlo subito. Oh, sì, ho capito. Di che parli? Che vuol dire? Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Vai a vederlo. Zalone su Verdone, vai. Ci sono state anche delle critiche negative, per esempio Verdone ha detto sì, il film di Zalone, insomma, si ride, sì, sì, però dopo un po', cioè poi è facile fare questi risultati arrivando sul mercato con 1000 sale. 1200. Vuol dire qualcosa sul Verdone a proposito di questo? Ciao Carlo, lo stimo tantissimo, Carlo Verdone, un grande maestro, che altro devo dire? Però ha detto una cazzata. Ha anche detto una cazzata. No, perché se metti prendere un film con Staff 1200 sale, insomma, non è un flop. Effettivamente è vero. Cioè, anche se uno arriva in 1200 sale, cioè, se io e te andiamo in 1200 sale, ma anche mio amico Ruffini, no, va in 1200 sale. Beh, un distributore. No, ma. Anche per lui la distribuzione ma conta. Ma no, sì, ho capito, ma certo che conta, ma è proporzionata alla previsione del successo. Alla previsione poi dell'evento. Ci sono casi anche di film molto distribuiti che dopo un po' le sale hanno detto ciao, ciao. Vero, perché non facevano un euro. Qui come invece... dicono i giovani, ciaone. Esatto, ma che cazzo è sto ciaone? A me ti giuro, l'altro giorno uno mi ha detto ciaone, stavo per tagliare una testata in faccia. No, devi dire, fare il culo. Questo ciaone, dire. Cruciani, ciaone. Ma che cazzo è ciaone? Oh! Allora, Zalone risponde io anche alla... sbiato su questo. Ma mi manda i matti. No, sento, no. A te te l'ho mai detto ciaone, questi modi giovani, ciaone. Perché allora o arrivi puntuale oppure mi fa ciaone. Oh! Ciaone! No, appello a tutte le persone in macchina che ascoltano la Zanzara. Se qualcuno vi dice ciaone, testata in faccia! E basta! Testata in faccia se uno vi dice ciaone! Ma dai! Allora, senti, faccio manca un appello. Testa a roba, se, faccio un appello a Bagatta. Faccio un appello a Bagatta. Bagatta no, lo chiamo Keno, diciamo che fa una rubrica preziosissima, l'ottimo bellissima Bagatta di cinema su Radio DJ. Sì, allora, Bagatta. Sì, più oltre che essere mio amico, ovviamente, che è la cosa principale, però professor lo chiamo. Bagatta. Lo chiamo durante la trasmissione. Si è perché, sposato da poco, Bagatta? No, non si è sposato, lascialo no, perdere. Non si è sposato. Sta con una ragazza molto più giovane di lui, ma non è sposato. Non è sposato. Sì, si doveva sposare, però non si è più sposato. Fatti i cazzi tuoi, scusa. Venga a spiegare la Zanzara perché non si è sposato. No, ma quello magari succederà. Venga qui a spiegare le ragioni per le quali. Dopo lo chiamo e mi deve dire: ha ragione Verdone o ha ragione Zalone? Questa è la cosa. Riduciamola alla sua essenzialità, non dalle pippe mentali che ti fai tu. Sì, là forse perché ha ragione Verdone o ha ragione Zalone. Intanto Zalone. No, ma io voglio dire alla moglie di Bagatta. Un attimo solo, non rompere i coglioni. Che sono se non lo sposa, fagli ciaone. Ragazzi, non posso condurre più. Allora, no, la proposta di Salvini era di fare Zalone ministro della cultura. Così, proposta fatta qui alla Zanzara, così ha risposto Zalone. Dai. E addirittura Salvini ha detto che la farebbe ministro della cultura. Sono soddisfazioni. Con Salvini, ministro della cultura. Li saluto. Ciao. Ciao politica. Le farebbe piacere, dico. Con Salvini? No, dico lei fare il ministro della cultura. È la cultura che si incazzerebbe un po'. Eccolo. Il traffico. La zanzara. Allora, un coglione mi scrive, ma ne parlerete di questo? Siccome protestano perché parliamo di questa vicenda dei 5 Stelle, tra l'altro ho appena detto che il sindaco deve restare, ma l'avete cacciato voi, mica l'ho cacciato io. L'ha cacciato Grillo, l'hanno cacciato Grillo Casaleggio con una procedura peraltro piuttosto bizzarra rispetto a quello che succede, no? Per le altre espulsioni, cioè molto rapida, eccetera, eccetera, molto eccetera. Molto rapida la rete è stata, la rapidità della rete. Dunque dicono, voi non l'ho capito, vi attaccate perché a questa cosa, invece ci sono 83 indagati o accusati negli altri partiti. Benissimo, ma io non mi attacco a nulla, a me che me ne frega, cioè non me ne frega assolutamente nulla di questa cosa qua. Sto dicendo semplicemente che trovo ridicolo tutto questo, no, tutto questo impazzimento intorno alla vicenda di un sindaco che non è nemmeno indagato. Ma siccome è possibile che la camorra si sia infiltrata, sono scalfiti nella loro purezza. Allora uno mi scrive, ma ne parlerete di questo? E mi manda un articolo, evasione da 1 milione di euro, rinviata a giudizio la vicepresidente di Confindustria Diana Bracco. Lo sto leggendo, non ti preoccupare. È accusata anche di appropriazione indebita, avrebbe commesso i reati in qualità di presidente del CDA di Bracco Spa. Il processo inizierà il prossimo 16 marzo. Intanto ti ho dato la notizia, dunque ho detto, qua sulla radio di Confindustria, che è stata rinviata a giudizio il vicepresidente di Confindustria Diana Bracco. Dunque non c'è nessun problema. Vediamo il processo, naturalmente, perché è sotto processo. Dunque non mi rompere i coglioni. Allora ragazzi, a noi piacciono molto i mariti, le mogli, le questioni familiari, no? Allora, la signora Rosa Capozzo, sindaco di Quarto, espulsa dal 5 Stelle ma ferocemente convinta di restare sindaco del suo paese perché l'hanno eletta i cittadini, ha un marito, il quale marito è anche lui un po', no, nei casini perché gli è stato affidato un piccolo lavoro da parte del comune quando la moglie è diventata sindaco. C'è la storia del sottotetto, forse dell'abuso edilizio commesso e poi sanato attraverso una come si chiama? Il condono. Sanatorio, condono, sì, non sanatorio. Io proverei a chiamare, lo sai, alla tipografia il signor, com'è che si chiama? Baiano, come si chiama? Baiano, una cosa del genere. Signor Baiano, sentiamo, il marito della Capuozzo, bellissimo. Sì, cercavo il signor Ignazio. Ma io? Buonasera, qui Radio 24, la disturbo? Ma mi dica. No, volevo sapere com'è che viveva questa situazione di sua moglie. È stata espulsa dai 5 Stelle, come la vive? È stata espulsa. Ed è ingiusta questa espulsione, secondo lei? Secondo me sì. Come mai la ritiene ingiusta? Ma la ritengo ingiusta perché lei non ha fatto niente di male, si è opposta a tutto quello che gli è stato, che gli volevano far fare, quindi non credo che si sia comportata male. Ma secondo lei si deve dimettere, no? Ma secondo me non si deve dimettere, però deve anche capire che adesso è una questione, è un momento che è stato sotto stress, quindi potrebbe dimettersi. Sì, potrebbe anche dimettersi. Cioè lei vorrebbe dimettersi dopo tutto questo stress? Ah sì, perché comunque non c'è stato troppo clamore mediatico su una storia che secondo me non... Ma lei è contento se si dimette per tutto questo stress o no? Sì, molto. Speriamo che si dimette, dice bravo, lei, no? Bravo. Ma questa storia della... Torniamo di nuovo alla vita tranquilla di una volta. Alla normalità. Scusi un attimo, sì. Ma tutta questa storia di alcune cose che sono state affidate alla sua tipografia, è vera o non è vera? Alcune cose del comune, alcuni servizi del comune? Sì, io ho sempre lavorato per il comune, anche con le precedenti amministrazioni. Io ho sempre lavorato al comune. Però forse, scusi, ho fatto fare dei preventivi, io rispondevo con dei preventivi più bassi, quindi no, d'accordo, però forse quando sua moglie è diventata sindaco, lei non doveva più partecipare a questi. No, quello era un sì, in effetti è così, però purtroppo non è manco stato partito da mia moglie l'affido di quel manifesto, un unico manifesto che poi. Quant'era l'appalto? 60 euro, stiamo parlando di 60 euro. Ah, 60 euro, un manifesto. Questo è tutto, 60 euro, che tolte le spese, sì e no, di guadagno c'erano un 25 euro. però stiamo facendo un clamore per 25 euro. No, ma su questo non c'è dubbio. Però forse ci voleva un po' più di, no, di anche... No, ma sono stati anche i messi comunali, quelli che mi hanno ordinato il manifesto, che forse dovevano pensare a chiedere prima a mia moglie. Certo. Ma sua moglie è molto stressata? Tantissimo. Tantissimo, eh. Ma veramente come considera Grillo? Guarda, e Casaleggio? No, ma Grillo e Casaleggio, quindi no, per carità, ma Grillo e Casaleggio come, no, li considera? Comunque no, adesso mi dispiace, ma devo interromperlo. Vabbè. Va bene. Grazie, grazie. No, sono Baiano, grazie, arrivederci. Sì. Il marito della sindachessa. Ciao, marito... Baiano, ciao. Basta. Ma perché? Che ha fatto sto, no, Baiano? Mi sto andando ai matti con questa roba del ciaone. Vedo che è diventato già virale di nuovo. Ma è una marea di tempo che si usa questa cosa, no, qua. Arrivi in ritardo, tu, come al solito. No, in ritardo perché me l'hanno detto. No, lo sapevo che c'era, ma mi sono trovato dopo anni uno che me l'ha detto. E quindi mi è saltata la mosca. Fino a nessuno aveva mai osato dire. Vabbè, fammi sentire qualche ascoltatore. Neanche che Mauro da Mantova. Ma è già scocciato. Gianfranco dalla provincia di Ferrara. Tu non sai che cosa mi manda in audio Mauro da Mantova contro di te. Tu non hai idea di che cosa mi manda. Cioè, mi manda degli audio contro di te, perché è diventato pazzo. Perché è diventato pazzo. Sai chi ha inventato Ciaone? Sai chi è? È stato Draghi. Draghi è stato. Gianfranco, provincia di Ferrara, vai. E Zalone? E Cocco Zalone? Sai perché hai distribuito nel cinema il 1200 sale? Sai perché? È colpa di sai perché? Ecco. È stato Napoletano! Infatti diceva fate presto! Intendeva il cinema! E De Benedetti? De Benedetti? De Benedetti sta in Svizzera! Perché è ebreo! E ha distribuito lui il film! No, diceva De Benedetti, ha fatto altre cose, non ha distribuito il film di Zalone! Ma non è De Benedetti! Ma non mi risulta veramente. Gianfranco, vai, vai, Gianfranco, dimmi. Gianfranco Vicichè, bene, allora come ma intendi... Ma non è Gianfranco Vicichè, Gianfranco dalla provincia... Come intende riorganizzare Forza Italia in Sicilia, Gianfranco? E Gianfranco dalla provincia... Cambiamo argomento. Dimmi, Gianfranco. Ma non è Vicichè? No, non è Vicichè. Chi ce ne frega? Vi seguo, quando posso vi seguo, siete molto simpatici. Vabbè, dai, forza, basta questi preliminari ridicoli. No, siccome che avete trattato spesso il discorso del buco del culo, beh, insomma, però, beh, a questo punto diciamo ciaone, l'argomento, sì, però non no, l'avete si inizia mai, così, non ciaone, mai sentito parlare, aspetta. Siccome che avete parlato di pulizia, di igiene, di cose, sì, della sì. brasiliana, cioè della brasiliana nel senso della depilazione totale, non vi ho mai sentito parlare di ceretta al culo. È una roba, scusami, molto amico, importante, togliere tutti i peli, togliere tutto quanto, però adesso, e la pulizia viene perfetta. Cioè, non ho capito, Gianfranco, tu per migliorare la pulizia nella zona e come la dire, della sensibilità, la zona dell'ano, tu ti fai la ceretta. Si capisce, ma cosa si capisce importante. Cosa? No, si la capisce. Cosa puoi fare quello che vuoi, la cosa che non si capisce perché vieni a dirlo alla radio. Cioè, per me puoi fare perché, quello che ti perché, pare. No, perché ne ma tua moglie, no, ma ragione, da questo punto di vista ha anche ragione. Ma i tuoi figli che ti sentono e dicono: mamma mia, che fa papà, ma che roba è? No, ma però lascialo perdere, magari non ha nemmeno i figli questo qua. Ma scusa. No, ma non lo vabbè, so. Ma si fa la ceretta all'ano, ma gli vorrei far fare questa ma ceretta all'ano. Ma tu lo racconteresti se fosse. Ma lascia perdere, adesso lo sta raccontando. Voglio capire una cosa: te la fai quante volte te la fai sta ceretta? Utile, non è utile, io vado all'essenziale, vado poi al pratico. Ecco l'altro. Sì, è utilissimo. È utilissima la ceretta all'anno, però siccome adesso abbiamo il giornale radio con tutte le notizie più importanti, ecco, della giornata, direi. 5 Stelle, quarto, anche noi direi. Abbiamo parlato di quarto, per carità, però col marito. Avevo una domanda da fare al vostro amico lì, al tuo braccio destro lì. Ma adesso torniamo, con tranquillità, torniamo perché voglio capire l'importanza della ceretta all'anno. Gianfranco dalla provincia di Ferrara. La zanzara è come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è ti manca. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! La Zanzara. Ma Parenzo, curalo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Parenzo, non so se ti è capitato di vedere Simona Izzo l'altro giorno da Vespa, a Porta, sì, a Porta. Come no? Simona Izzo, attrice, produttrice cinematografica, insomma, la conoscete tutti naturalmente, no? Allora, Simona Izzo si è rifatta il viso, si è rifatta anche parecchio il viso, perché oggettivamente, per chi l'ha vista anche recentemente e poi l'ha vista da Vespa, c'è una trasformazione quasi totale, diciamo, no? Del viso, ma è legittimo, cioè si può fare. Beh, no? Cioè, con il proprio corpo uno può fare quello che vuole. Ieri abbiamo ospitato una persona che si è rifatta completamente, secondo me è diventata una roba mostruosa. Si è rifatta quasi completamente. Voi potete criticarla, potete dire tutto quello che volete, ma ognuno ha il diritto di fare quello che vuole. Simona Izzo è stata un po', diciamo, massacrata dal web, no? Gabriel Garco, sono stati fatti questi atteggiamenti e questi paragoni, questi accostamenti. Vespa giustamente l'ha invitata di nuovo. E sentite la sua risposta alle critiche. Ho chiesto al mio chirurgo: guarda, mettimi un pochino a posto e dammi una tiratina sugli occhi. Probabilmente è un fatto ancora eversivo. Sono una donna molto realizzata e credo di avere la libertà di fare della mia faccia. La libertà di piacerti. Di piacermi, se poi purtroppo. Liberi di piacersi. Che diavolo. Quello che mi dispiace è l'accanimento, soprattutto delle donne, nei miei confronti, e nei confronti quindi di tutte le donne. Ma chi è la prima? Non ho capito, sembra il primo intervento chirurgico della storia. No, perché io ho fatto un outing, cioè sul web molte donne vengono additate come donne che si sono sottoposte alla chirurgia, anche donne molto famose, nessuno lo dice. Che è successo? Non lo so, sono diventata un caso. Pensa, io che, a parte che ho fatto l'outing e non è il primo ritocchino, io che ho fatto dei film, dei successi, ho preso i premi, non ho mai avuto tanto clamore. Non è che io affronto questo per essere più sicura di me, anche perché forse per piacerti di più sicuramente sì, però. Per piacermi di più, diciamo che sono una donna dei miei tempi, io ricordo che mia nonna non si poteva togliere i peli dalle gambe perché a nonno gli piaceva così, mi chiedo ancora perché. Ma se al nonno aveva... gli piaceva così. I peli sulle gambe magari non è il paragone giusto, cioè tra levarsi i peli dalle gambe e rifarsi il viso c'è una bella differenza. Ma in fondo ha ragione, c'è cioè ogni cosa. No, ma secondo me tempo, ha ragionissima in tutto. Se ne frega. Uno è può fare quello che vuole. Io non farei. Web. Io per esempio non farei nulla. Lascia perdere la cattiveria del web. È anche normale che la gente critichi. Sei un personaggio pubblico, vai lì da Vespa, uno ti mette trasformato. Sono i modi ma sì, vengono va bene, d'accordo. Violentemente certo. Attaccate le persone. Vabbè, vale, a tutto i mezzi per difendersi da questa roba qui. Infatti, la cosa che dico io è un'altra. Forse quando si è presentata la Vespa, non per parlare dei suoi ritocchi, un piccolo consiglio anche di comunicazione. Uno dovrebbe dire: mi vedete così perché mi sono rifatta, no? Invece poi lei dopo ha detto: comunque, chi se ne frega. Io non mi farei toccare la pelle No, perché molti mi dicono: perché no? Ti sono venuto un po' di rughe, c'hai quasi 50 anni, perché non vai a Zurigo? Ieri una mia amica mi ha detto: vai a Zurigo a farti fare delle infiltrazioni, a Zurigo, a Lugano. Vieni con me a Lugano che ci facciamo delle piccole infiltrazioni cutanee. Io ho detto: ma tu sei scema, infiltrazioni cutanee a Lugano. Ora voglio sentire Renzi su Quarto. Io anche la cosa... a me tante volte mi hanno detto: perché le occhiaie, no? Mi hanno detto tu sì, le occhiaie. Sì, no, quello dice, potresti fare qualcosa sulle occhiaie. Lo sai ma chi ha fatto qualcosa sulle occhiaie? Tanti anni fa. Tanti anni fa. Ma ciaone. Marco Baldini, tanti anni fa, si fece un intervento. Perché aveva delle occhiaie peggio delle tue, con delle borse pazzesche, non dormiva mai. Che me ne frega a me. Fece un intervento per limitare le borse. Le borse sotto gli occhi, il nero sotto gli occhi. Radio 24 mi dà l'indennità delle occhiaie, non credo. Ma no, perché ma che cazzo c'entra adesso? Non è che dobbiamo pagare. che gliene frega loro. No, ma io non mi farei toccare con sempre a parlare con... di soldi, stai. No, cioè... soldi, a parte che non mi interessa. Ti dà fastidio farti toccare, giusto? Questo lo capisco. Questo basta. Lo capisco. E poi mi piace. Cioè, la notizia è questa, Parenzo. Le occhiaie non le cambio. Mi piacciono anche. Ti piacciono le occhiaie? Oh, benissimo. Posso avere questa allora, cosa? Allora, Renzi parla di quarto. Io dico solo una cosa, ragazzi. Renzi va benissimo, può parlare di tutto, però non capisco perché il Presidente del Consiglio deve intervenire un po' per criticare i 5 Stelle, no? Per dire finita la loro, il loro monopolio della morale da parte dei 5 Stelle, che è una cazzata perché nessuno ha monopolio della morale, se qualcuno si è sentito depositario della morale ha comunque sbagliato. Ma il Presidente del Consiglio perché si deve occupare di una piccola inchiesta? Giusto per dare una, no, una staffilata ai nemici dei 5 Stelle. Dunque, evidente. Sbagliato l'intervento di Renzi. Inappropriato, inopportuno. Beh, la politica, amico mio. Sì, ma il Presidente del Consiglio dovrebbe andare oltre la politica, il Presidente del Consiglio. Anche perché lui c'ha un sacco di indagati. Vogliamo ricordare, io lo considero il governatore del mondo, però nella stessa regione di Quarto c'è un Presidente della regione che è il numero uno, secondo me, assoluto, ma formalmente è stato condannato. Formalmente c'è un condannato alla presidenza della regione Campania. Per me la condanna non conta niente perché De Luca è il numero uno assoluto. Però nella stessa regione di Quarto, su cui ci sono le critiche di Renzi, c'è un presidente condannato. E poi ci sono un sacco di amministratori del Partito Democratico con gravissimi guai giudiziari. Dunque, Renzi, zitto, fa il Presidente del Consiglio, non rompere i coglioni 5 Stelle. Renzi. Io credo che lei avrebbe dovuto... eventualmente denunciare chi la stava ricattando o minacciando, ma certo non dimettersi, perché in quel posto l'hanno messa i cittadini. L'idea che il 5 Stelle abbia il monopolio della morale per noi non è mai esistita, ma adesso è chiaramente venuta meno anche per gli elettori, i militanti del 5 Stelle. Vabbè, andiamo in provincia di Napoli. Alfio, vai Alfio. Ciao, buonasera a tutti. Sono dimmi, Alfio, dimmi. Chiamo da Quarto. Ah, chiami da Quarto. Chiami da Quarto. Sì, dimmi. Perfetto. Sono anche un vostro collega giornalista. Un altro scrive, non è che la signora Izzo ha fatto scandalo perché si sia ritoccata. La signora Izzo ha fatto scandalo perché è stata rovinata alla stregua di Laura Antonelli. Guarda, io non so se sia stata rovinata o meno. Questo lo dici tu. Lei magari si sente benissimo, si sente molto bella, si sente molto meglio di prima. Qual è il punto? È rovinata secondo quale criterio? A me pare invece che si sia trasformata radicalmente, almeno dalle ultime foto, e abbia un viso assolutamente... No, carino. Ma sì, ma lui chi se ne frega? No, vabbè, chi se ne frega? Un personaggio pubblico, si parla di un personaggio pubblico. Ma non è stata rovinata, secondo me. Cioè, vogliamo mettere la signora Rizzo con la signora di ieri sera che abbiamo ospitato? Ma perché? C'è una differenza clamorosa. Comunque, poi ognuno può guardare la signora Rizzo e dire che fa schifo, eh. Alfio, vai. Diciamo, bisturi e politica sono più o meno la stessa cosa. Non si deve scherzare né con la politica né con i bisturi. Vabbè, secondo dunque? Me. Diciamo, vabbè, io sono di Quarto, abito da Quarto, un paese, diciamo, che diciamo. La situazione è davvero molto complessa, al di là della vicenda del sindaco Caporta. Vabbè, lo sappiamo che è complessa, che anni, ci vuoi dire però, Alfio? Andiamo anni. Al sodo, vai. No, diciamo che io gestisco anche un gruppo su Facebook relativo al paese, e i cittadini sono con il sindaco. La parte onesta di Quarto è con il sindaco, è un paese, diciamo, che sta avendo... ultimamente un eco, no, questo è interessante, questo è interessante. Tu dici la parte, diciamo, onesta della città, quelli che vogliono la trasparenza, eccetera, eccetera, sono con il sindaco. La cosa clamorosa è che i 5 Stelle pensano di essere anche loro i più trasparenti, i più corretti, certo, lontani dalla camorra. Dunque, ci sono i cittadini che vogliono che il sindaco resti perché pensano, evidentemente, da quello che ci dici, che ha fatto bene, che è stato trasparente, che è lontano dalla camorra. I 5 Stelle che pensano la stessa cosa, ma siccome la questo signora... Questo l'ha detto anche Cantone, per la verità, no, ma oltre ai sì, ma siccome un signore, certo, che è Superman, certo, Superman del governo, della trasparenza, eccetera, il eccetera, Superman della trasparenza, ha detto che anche gli appalti che sono stati fatti bene. E dunque, il Cantone, e dunque siamo nel paradosso per cui, siccome la signora è stata leggermente scalfita, è finita in una battaglia politica, dai, è finita, sì, in leggermente mezzo scalfita, allora Grillo e Casaleggio l'hanno abbandonata, ma è una cosa ridicola. Alfio, che dici? Sì, sul ridicolo mi trovo anche io con voi. Abbandonare un sindaco che prima è stato osannato come il fiore all'occhiello di 5 Stelle, poi nel momento del bisogno è stata, diciamo, un poco, cioè un po', è stata abbandonata letteralmente. La fortuna di Rosa Capozzo è che la città, da quello che leggo anche sul gruppo Facebook, la città è con lei, al momento la città è con lei. Va bene, Alfio, ciao, Rodolfo, La Spezia, vai, Rodolfo. Rodolfo, pronto? Dimmi, vai, dimmi. Niente, no, io volevo dire che in merito ai fatti di Colonia, per me deve essere vista sotto un'altra ottica questa, cioè? Queste espressioni. Cioè l'ottica che secondo me è stata una prova fatta con le donne di quello che potrebbero essere ordini che vengono dall'ISIS per poi fare altre azioni. Quindi è stato un test per vedere quanti di loro sono disposti ad eseguire un ordine. Domani l'ordine potrebbe essere non quello di violentare le donne, ma quello di tagliare la gola o di occupare le caserme. Oh, abbiamo un esponente dei servizi segreti che ci ha chiarito, veramente. Ci ha chiarito qual è. No, per carità, Rodolfo, però per dire questa una cosa del genere, per dire. No, però Rodolfo, per carità, ognuno può dire quello che vuole, figuriamoci, soprattutto qua. Rodolfo. Però Von Rodolf dalla Spezia, esponente dei servizi segreti tedeschi, ci spiega con dovizia di particolari che secondo lui l'ISIS ha mandato dei bigliettini, degli ordini ai a 500, 600, 700, forse 1000 immigrati, in parte siriani, in parte no, nordafricani, islamici, eccetera, eccetera, per fare un test. Rispettano gli ordini oppure eseguono i nostri ordini oppure no? Rodolfo, per carità, va benissimo, però come ti è venuto in mente una cosa del genere? Ma così, come ne vengono in mente a tanti altri, tante magari meno intelligenti. No, però... ma d'altra parte questa è la zanzara, c'è spazio anche per queste cose. Gianni da Milano, vai Gianni. Il tema è assolutamente diverso. Vai, dimmi. È quello che ho sentito stamattina della proposito del 5.000 euro di multa per aver per dimenticare la patente da qualche parte. Ora, cioè, non ho capito che cosa... C'è che una proposta di legge per cui se uno dimentica la patente a casa, cioè non mostra la patente, ha 5.000 euro di multa. Ora, probabilmente non credo che la dimenticanza della patente, solo la dimenticanza, è una cosa patetica. Secondo me uno non dovrebbe nemmeno avere la patente. Cioè, questa cosa è ridicola per cui uno ha la patente, non deve avere il tesserino, il tesserino, la cosa, non dovrebbe avercelo. Se ti ferma anche questa cosa qua che bisogna girare con i documenti, ma che cazzo vuoi? Io giro come mi pare. Come, però sei in contraddizione, perché invece chiedi agli immigrati... No, ma quello è diverso. Se sei cittadino italiano regolare, cioè, sono gli altri che devono controllare te. Allora io giro con la patente, lasciamo perdere i documenti. Sai, in Inghilterra sai che non c'è esatto, lasciamo perdere i documenti, no? La patente, ma io perché devo dire chi sono? Patente libretto. Sì, ma patente libretto. Sì, ma una cosa vecchissima. Presto, cioè... patente libretto, fate presto. Ma che c'è presto, fate presto con patente libretto, scusa. Patente libretto, fate presto. Fate presto, patente libretto. Patente libretto. No, ma sono gli altri che devono contare. Uno deve dire mi chiamo Totto, poi se dici il falso vai in galera. Sì, vabbè, ma io non ho letto questa roba. C'è una proposta. Chi l'ha fatta sta proposta? Non lo so, qualche coglione avrà proposto di punire con 5.000 euro. Sì, non l'ho letta, ci sarà sicuramente. Non leggi un cazzo come non leggo un cazzo io. Gianni, allora 5.000 euro per chi? 5.000 euro per aver dimenticato la patente. Cioè non c'è un minimo di proporzione. E se mi rubano il portafoglio, scusa, cosa vuol dire? Vabbè. C'è la denuncia. Euro. Ho capito, ma se non mi accorgo ero al bar, salgo in macchina. Quello è un caso eccezionale, fermo là. Comunque, chiunque abbia proposto questa cosa è un imbecille. Gli va fatto ciaone. No, ma io dico di più, è un imbecille. Fermi. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Luciani, un giorno o l'altro ti fanno la festa. Giuseppe, perché non mi fai risentire quella puttana, la escort che parlava l'altra sera, grazie. Meglio della merda ci è. Luciani, stasera ho litigato con la mia ragazza perché gli fa schifo la zanzara e mi ha lasciato. E mo? Mi dai Parenzo in cambio? Io vorrei chiedere a un esperto di gastroenterologia... Com'è possibile che questi zingari che entrano nelle case riescano a defecare a comando sui pavimenti delle persone oneste e civili che quella casa se la sono fatta lavorando e sudando ben anche più di 7 camicie? Parenzo, siamo qua in due, tutti e due mi hanno detto che sei un coglione. Parenzo, sei un coglione. Ma Parenzo che fa tanto l'uomo di cultura, ha visto la ciociara? Sa cosa sono le marocchinate? Ho studiato un po' la storia? Vabbè, lui è l'uomo di cultura tanto. Allora, Parenzo, è abbastanza chiaro che l'ascoltatore di prima sulla patente non aveva capito una beneamata mazza. Io non mi ricordavo bene, non avevo letto, perché non mi interessano queste cose della patente. Quando mi dicono cosa devo fare lo faccio e chi se ne frega. Però non è che ti danno 5.000 o 20.000 euro di multa perché ti sei dimenticato la patente. Questo, c'è una sanzione se tu ti dimentichi la patente anche adesso. Sì, certo. Hanno depenalizzato il reato, cioè se tu guidi senza patente, cioè senza proprio, se proprio non hai la patente, non vai più, non è più reato penale, ma diventa sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Alcuni dicono è follia. Pensandoci bene, è follia. No, secondo me non è follia per niente. Dipende, poi ovviamente se metti sotto qualcuno, anzi hanno aumentato le pene, se ammazzi qualcuno. Però, ti credo. La realtà è che bisogna colpire la gente nel portafoglio, poi bisogna eseguire naturalmente. Entrambe. Sì, però secondo me il reato penale, cioè se tu guidi senza patente e ti tolgono i soldi, intanto sei un pericolo per gli altri. No, ma ci pensi 100.000 volte, ma sì, lascia 5.000 euro. Certo che sei un pericolo, amico mio. Quindi se sei un pericolo per gli altri va sanzionato come reato, non ma come no, invece secondo, me se tu colpisci la gente nel portafoglio è molto meglio. È molto con la fedina penale sporca, voglio vedere ma se come, la bravata la fai. Come i calciatori, per esempio, no? Qualcuno tempo fa pensava, invece di sanzionarli con le giornate di squalifica, cioè gli fai pagare una marea di soldi. Beh, questo è diverso, questo è giusto. Ma non lo so, giusto. Questo no. È diverso, questo è giusto qualcuno. Perché non crea un danno, non crea un danno a altre persone una squalifica di un giocatore, se non alla squadra, no? Vabbè, Margherita, ma invece Udine, in macchina vai. Se uno guida senza patente. Vabbè, ma infatti nessuno dice che non fai danni, pericoloso. Sto dicendo semplicemente che invece del reato penale penalizzarlo è sbagliato, secondo me. Ma non lo so, secondo me invece potrebbe funzionare. Margherita da Udine. Comunque è un dibattito che non mi interessa. Margherita da Udine. Salve, ho sentito che c'è qualche problema con le nutrie nella regione della Lombardia. In regione Lombardia, sì. Sì, mi scusi, sono straniera, a volte abbondo. Di dove sei, cara Margherita? Articoli. Di dove sei? Sono polacca. Polacca, sì, Margherita, sì. Vai. Comunque, io ho trovato la soluzione. Qual è? Negli anni Ottanta, mentre ancora vivevo in Polonia, la carne scarseggiava, veniva razionata e allora ci si arrangiava in qualche modo e ho mangiato le nutrie. Hai mangiato le nutrie? Cioè, tu mangiavi le nutrie in Polonia negli anni Ottanta? Sì, qualcuno ha portato le nutrie arrosto di nutria. Ai tempi del comunismo si faceva qualsiasi cosa, cara Margherita. Nel frattempo, mentre aspettavo la chiamata, qui mi sono fatta un minimo di cultura in internet e ancora fino al giorno di oggi si trovano delle ricette di tutto rispetto. Per le nutrie, ma lo sappiamo, ci sono anche dei ristoranti che fanno le nutrie in alcune zone d'Italia, ci sono delle sagre della nutria, eccetera. Io non la mangerei mai la nutria, me ne fotto altamente. E dico anche che se vedo una nutria che si avvicina... che siccome mi fa orrore la nutria, sicuramente non la adotto come ha fatto la signora. Quella specie di arrosto o di patè non si intende. Ma com'era la carne di nutria, Margherita? Ma di quello che mi ricordo, guardi, quando uno non mangia proprio la carne per settimane, quando c'è la fame, c'è la fame, certo. Non c'è e c'è la fame, c'è la fame. Comunque vicino al coniglio o roba del genere. Va bene, ciao Dario Modena, vai Dario. Eccoci, ciao. Dimmi. A tutti. No, io mi riallacciavo a quella poveretta della telespettatrice di prima che mangiava le nutrie perché praticamente la legge lombarda dovrebbe fatta diventare legge nazionale, cioè io abito in provincia di Modena e grazie alle nutrie due anni fa praticamente il Secchia lo sappiamo che ci sono un sacco di problemi da quelle parti, Mantova, Modena, quelle parti là. No, è un'alluvione allucinante per 5 giorni, 3 metri di acqua sotto l'ufficio, grazie a quelle bestiacce. Qualcuno sostiene che non c'è bisogno di massacrare le nutrie, ma se si trovano altri metodi... Eliminarle totalmente, non bisogna massacrarle, bisogna farle sparire dalla faccia della terra. Ma anch'io le farei sparire dalla faccia della terra, non è che possiamo mettere, no, non è che possiamo fare la caccia alla nutria, nessuno fanno, si mette a fare la caccia alla nutria. Lo fanno sugli altri. Sì, lo so che da noi lo fanno. È terrificante. Ma sono dei benemeriti quelli che lo fanno, sono dei santi, andrebbe dato una medaglia a chi fa la caccia alla nutria. Volevo ricordare appunto i 2 anni dell'alluvione perché c'è ancora gente che non ha ancora visto un soldo. Vabbè, adesso non è che è solo colpa della nutria però. Però ci ha dato, infatti è anche colpa di chi non ha fatto manutenzione agli argini. Va bene, però... Claudio Matera, vai Claudio. Pronto? Dimmi, volevo dimmi. Intervenire in merito al discorso sul film di Checco Zalone. Sì. Insomma, io sono d'accordo con te Cruciani e non con Parenzo su che? Con Verdone. sul fatto che Zalone sulle sale di distribuzione, sì, incassi, non perché sia stato distribuito. Ma infatti in, ha detto una cazzata, dai, su, è una cazzata, cioè, questa perché, cosa cioè, qui. Se cioè, noi mettiamo il film in tutte le sale d'Italia e ogni giorno ci continua ad andare tantissima gente, non è che il film fa schifo, però la gente ci va perché è l'unico film. La gente ci va perché il film è bello. Credo. No, ma è talmente chiaro questo, cioè che non esiste nessuna dittatura della distribuzione. Certamente alcuni film sono... Beh, nessuno parla di dittatura della distribuzione. Ma sì, ma complotti, Verdone, ma ha fatto capire, ha fatto capire che su alcuni film viene fatto da parte delle aziende legittimamente un investimento di un certo tipo. Sì, ma lui rosicava, capito? Lui un po' rosicava, cioè un po' rosicava per questo. Conoscendo, diciamo, l'artista, che non è... Ha detto, è un che po' non facile. È uno che i suoi... Però la differenza è questa. Siccome il signor Verdone non è sicuramente uno che vive con i soldi dello Stato, ma è uno... Che, dice questo, che c'entra? Esatto, quindi la critica non è una critica di un rosicone, perché uno che ha sempre fatto film di successo, no. Se la critica fosse venuta da degli sfigati, uno potrebbe dire: beh, amico mio, i tuoi film li hanno visti in due, di cosa ti lamenti? Siccome la critica, la considerazione arriva da un signore che è sul mercato tanto quanto questo? Zalone, ma cosa c'entra questo? La riflessione che lui fa mi sembra intelligente. Ma non c'è nessuna riflessione, non la c'è riflessione, nessun... la sortita, non c'è, chiamala come ti pare, la non ha detto mica che è un cretino, nessuno ha detto che è un cretino. No, quindi non ha detto, beh, tu hai detto che non sei d'accordo. Ma non ho detto che non sono d'accordo, ha detto che stupidaggine. Ha detto giustamente Zalone penso che è una stupidaggine. Abbia contato alla, abbia con questa cosa, ha contato, ma conta, alla, ma è normale che successo. Conta, ma per forza conta. Ma sì, però una cosa è dirlo, come dire, non c'è bisogno di dirlo. Se un film ha successo, bisogno. È normale che venga, che le sale facciano a gara per averlo, no? Ma mi sembra una cosa talmente scontata che non c'è manco bisogno di dirlo. Se tu lo citi, significa che dire sì, però ha successo, ma guardate che viene distribuito in 1200 sale. Dunque, diciamo, è un po' facile, ma fra poco riprenderemo la dichiarazione. No, la dichiarazione parola per parola di Verdone. Marco da Lecce, vai. Oh, Cruciani, finalmente, quanta dimmi. Cazzo di pubblicità. E niente, Cruciani, tu continui a rompere la nicchia al sud. In continuazione, adesso basta. Cazzo, ma su che cosa? Tu, spiegami. Su tutto. Io, ad esempio, ho fatto questa battuta infelice proprio da leghisti dei primi tempi, no? Il cosa? Sud ha preso tanti soldi dal Stato, li spreca. Se sì, ma come tante altre regioni mai. D'Italia, cioè, forse di allora, più. Allora, facciamo così. L'Italia ha corrotto e continua a corrompere tanti istituti e amministrazioni in tutto lo Stato. E allora il ragionamento ha tutto un altro suono. Però, caro Luciano, io ti voglio fare anche un esempio, no? Quando a Cosenza la siringa si dice che costa 6 volte... È vero o non è vero? Io dico no, è falso, magari la siringa a Cosenza costa anche 8 volte, ma questi soldi vanno a Cosenza, a Reggio Calabria? No, impossibile che vadino lì. Sa perché, Cruciani? Perché semplicemente le siringhe nel sud Italia non si producono. Queste siringhe verranno acquistate dalla Regione Calabria. Senti, è così. E dove vanno a finire i soldi? Marco, qual è il problema? Qual è Vicenza, Verona. Sì, sì, vabbè, ma qual è il punto? Cruciani. Qual è il discorso? Non ho capito ancora qual è il discorso. Il punto è che Cruciani, anche adesso lo vedo con Napoli, continui sempre a scassare la nicchia ai meridionali. Senti, io dico quello che, certo, ai neoborbonici non c'è dubbio, a quelli che fanno l'esaltazione del sud, quando invece... Hai visto le bandiere nello stadio in questi giorni dei neoborbonici? Ma quali neoborbonici? Come quali neoborbonici? I neoborbonici non esistono, questo è il punto, non esistono. Allora, sono quattro gatti. Sono quattro gatti sfigati che pensano che il sud rumorosi, che pensano rumorosi. Ma rumorosi nemmeno troppo, perché diamo spazio noi ogni tanto a queste cose qui, perché sono dei mostri, no? Cioè, quattro gatti sfigati che pensano che il sud sia stato oppresso dal nord, sia sotto il tallone del nord o sia stato discriminato dal nord. Una cosa patetica e anche un po' ridicola. Adil da Verona, vai. Adil, dimmi. Mi senti? Volevo solamente parlare riguardo dei fatti di Colonia, facendo più che altro una precisazione, cercando, cioè, secondo me sarebbe meglio parlare di queste tematiche, cercando di essere quanto più oggettivi e non utilizzare come sempre il megafono della religione, quindi quando succedono cose negative. Senti, amici miei, non succede solo a Colonia, in tante città dell'Islam, sì. In occasione sì. Di feste... No, ci sono queste, non dico stupri, insomma ci sono delle molestie gravi nei confronti delle donne, anche stupri. Ok, ci sono. In paesi islamici è solo un caso, ma perché uno non deve dire le cose come stanno? Ma ci sono qui cosa? Ma non c'è, ma non ci sono qui. Ma dove? A Verona, dove abiti te, che ci sono stupri? Ci sono stupri di massa? Sì, li dico oggi alle 11. Dimmi, che è successo oggi alle 11? Il suo collega, non mi ricordo più, sempre su Radio 24, ha condotto una trasmissione dove tutte le donne italiane hanno espresso che sono state abusate sessualmente e hanno espresso il loro abuso e hanno detto che la maggior parte, erano 10 casi se non mi sbaglio, uno è stato da parte di ma che ci siano i casi di Branco, di ragazzetti di Branco, ne è piena la cronaca locale di tutti i giornali. No, ci sono episodi dei di branchi, cioè di ragazzi anche nelle scuole che usano violenza, per fortuna ma non potete stupro, dire ma che è la stessa cosa. No, ma non riguarda un gruppo etnico. Ma non potete dire che è la stessa cosa. Ma perché volete paragonare? Un gruppo, ma perché criminali che siano essi cinesi, allora tu non distingui bianchi. Nulla, non distingui nulla. A te non ti interessa che quelli erano profughi islamici. Mi interessa solo punire quello. Il reato. Non vedi se ci sono delle cose in giro che ti preoccupano, magari un'immigrazione di persone di questo tipo. No, non te ne frega niente. Mi preoccupa molto la jihad, mi preoccupa molto l'ISIS, ovviamente, ma non credo che l'ISIS c'entri con queste episodi. Non credo, fino ad oggi. Non lo so, ma l'ISIS tratta bene le donne? Ma certo che no. Ah, benissimo. Ma mi sembra evidente, certo che no. Posso mica a voi non vi interessa. Adil sta dicendo che in Italia succedono le stesse cose. Ma Adil sta dicendo non è tutto che in Italia l'Islam, non succedono le stesse cose. Succedono che succedono ci sono gruppi di stupratori. Stupri di gruppo? Ma sì, di ragazzotti, a parte che sono italiani, rari, a parte che sono rari. Ma mica tanto, guarda la cronaca dei giornali. Va bene, allora locali è la stessa soprattutto. Cosa. Hai ragione tu, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Fermi. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Allora, è con noi Maurizio Zamparini, buonasera, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Maurizio, voi, come stai? Benissimo. Ma che combinate? Hai combinato un casino pazzesco. No, io non ho combinato, io sono vittima di situazioni. Come vittima? Vittima di situazioni, scusa. Sì, perché a un certo momento mi sono sentito in televisione. Cosa? Domenica sera, dopo una vittoria che mi aveva fatto contento, tutto il nostro partire a esternare, giustamente, una certa situazione, naturalmente... io sono rimasto vittima anche di questo, ma fa niente. Cioè, tu dici sei. La realtà è che sei. Non capisco. Io a parlare voi adesso di cose terribili. No, lo so, gli stupri di Colonia, sì, certo. Con tutte le cazzate che diciamo, è un'isola ancora felice di piccole cose. No, non c'è dubbio. Però Maurizio, scusami un attimo, tu hai raggiunto tanti record, no? Positivi e anche un po' negativi, perché la vita è fatta di alti e di bassi. Negativi, diciamo, consideriamoli negativi, cioè sei considerato un mangia allenatori. Ma sai, in tutto il mondo. Questo mondo qui che è tutto sbagliato, secondo me, no? Quello dell'immagine. Mi conoscono dappertutto perché sono quello che è il record del esonero degli allenatori. Anche se sono ma hai fatto un conto finale con Ballardini? Hai fatto un conto finale? Ha dato una notorietà pazzesca, neanche come si sia posto. No, ma non tengo i conti, io sono vittima anche di quello. Chi vuole cambiare gli allenatori? Cioè, questo io non ho capito, cioè, tu hai dato. Questo si è cambiato da solo. Pazzesco. Cioè, Ballardini si è fatto fuori da solo, dici? Sì, si è suicidato. Si è suicidato, sì, effettivamente è vero. Però tu un po' l'avevi già delegittimato. Perché sai, sono i risultati che delegittimano, non è che ma l'hai fatto fuori dopo una partita in cui ha vinto. Sì, Iachini. Ballardini, a parte pure no, Ballardini non è che l'ho fatto fuori io, ho detto sei suicidato da solo, sono esonerato il portiere. Ma come mai? Che ha fatto? Che gli è successo? No, vabbè, l'ho già raccontato, dai, è successo che a un certo momento c'è stato un alterco, l'allenatore di prima pensava che ce l'avessero con lui gli stranieri, l'allenatore questo qui pensava che ce l'avessero con lui gli italiani, per cui hanno visto complotti dappertutto che non c'erano, la squadra di calcio che fa il suo dovere, perde e vince a seconda della sua forza, ha dimostrato di però anche senza allenatore, per cui va bene così. Cioè praticamente l'ultima partita l'hanno vinta senza allenatore? Sì, l'ultima partita sì, non c'era in campo l'allenatore che si era praticamente eclissato da solo, però non era neanche casa sua, insomma lo stress che le ho fatto vivere anch'io dovendo fare il risultato, ma non io, tutto l'ambiente del calcio. Però Maurizio hai raggiunto il record di aver esonerato due allenatori dopo due vittorie c'è cioè un record Vede, nel mondo sarò conosciuto anche per questo, che adesso sarà già ribaltata sta storia qui. Il Guinness dei primati. Viviamo stupidamente un mondo solo di immagini, ma va bene. Raggiungiamo un altro record, che ne so. Ma tutte a te capitano, però questo è interessante. Ognuno ha il proprio destino, questo è il mio destino, caro. Dici capita al Sassuolo, no? Capita al Palermo, come mai? Sassuolo ci ha spinto, perché il presidente, a lui è capitato peggio, fa il presidente degli industriali, pensi che sia meglio. No, questo pure è vero, questo pure è una bella grana, eh? È una bella grana, è vero. Cioè ha più problemi di me perché deve fare il capo degli industriali. Sicuramente. Sai che rottura di coglioni, no? Di più. Senti un attimo una cosa. Ma Zamparini capo di Confindustria. Bah, sarebbe stupendo. Nella corsa che ci sono, Sarebbe meraviglioso, dai. Questa che roba, editore Zamparini, ma non lo faresti tu, scusa Maurizio? No, beh, non, ma tu non cosa? sei nemmeno un industriale, io, poi. Cioè, no, io non farei, io faccio l'imprenditore. Fa l'imprenditore un po' di vuol dire? Il mio orgoglio è creare posti di lavoro e creare lavoro per la gente. E qui dove siamo? Non farò mai nel politico, né occuperò poltrone. Io sono convinto che lui disapprovo chi approvo capo. Secondo me tu consideri tipo Confindustria una sorta di banda di associazione a delinquere. No, è un'organizzazione della società che si è data anche con questo tipo di strutture, che se io fossi un dittatore tirerei via completamente, ma non solo la Confindustria, tante altre cose, insomma, no? Tutta gente che lavora per niente e crea problemi dal nulla. Senti una cosa, ma allora, due allenatori, adesso che succede? Chi hai preso? Questo argentino insieme a Viviani? L'argentino era già venuto da me prima, me l'avevano proposta dei miei cari amici. Come te l'hanno proposto dei cari amici? Hanno un progetto per entrare dentro con me nel calcio e per fare del Palermo se ci riusciamo, ma con loro dentro poi che prenderanno poi la presidenza. E che sono argentini questi qua? Io resterò dentro, ma ho 64 anni. Ma che sono argentini questi? Schelotto è un allenatore giovane, vincente, argentino, con tanto entusiasmo, ha entusiasmato anche me e voglio ritornare ragazzino anch'io, anche se sono 74 anni, e provare con lui e provare questa storia qui. Viviani me lo sono trovato lì perché ce l'avevo già in casa, e naturalmente un allenatore, perché non era predisposto che io mandassi via Ballardini e gli chiamassi questo, no? Per cui ho dovuto prendere in 5 minuti una decisione. La fortuna ha voluto che io avessi Viviani lì, perché Ballardini non l'aveva voluto vicino perché lavorava con Iachini, ma lavorava ma un caos pazzesco, che casino che hai fatto. Ma il calcio è tutto così caro. Che no? Casino, come perché voi, come voi i vostri rapporti, perché voi all'interno voi giornalisti avete lo stesso casino che voi fra di voi. Vabbè, ma Mori, ma non ti conveniva lasciare quello Iachini, amato dai giocatori, eccetera? Perché non l'hai lasciato lì? Adesso l'avevi ripreso. L'avevi ripreso e poi lui che cosa voleva? Perché non l'hai più preso poi? Perché secondo me sei un po' montato la testa. A un certo momento, quando uno arriva a un certo livello e non mantiene più l'umiltà, poi fa la fine di Craxi, no? Che era un ottimo governante e aveva perso la misura e potrebbe essere ancora qui. Perché Iachini ha perso il senso dell'umiltà, per cui a un certo momento pensa che lui sia l'apice del calcio, che lui crei il tutto, ma a me non va bene. Insomma, che ti aveva chiesto? Qualche giocatore? No, acquisti. Non ho chiesto niente, è il ragionamento. Allora, che c'è stato? Quando uno dice, sai, io sì, ma il direttore sportivo nostro non deve mettere piedi nello spogliatoio. Ci sono nello spogliatoio 3 o 4 giocatori che c'è il tuo procuratore amico ha portato lì e sono i miei nemici. Sono cose che non vanno. Così come Ballardini aveva visto i nemici in quelli che lui diceva erano gli amici di Iachini. Vabbè, no? Iachini no? Come Craxi addirittura, come Craxi che si è montato la testa. Craxi è finito calcio, male. No, come Craxi, dai, fatti bravi. Nel calcio. Amico mio, Craxi è finito nel male. Nel calcio, quando uno si monta la testa, vuole fare il paragone, il paradosso. No, ma ho capito Craxi, benissimo. Era uno dei più bravi dei politici che avevamo. Finito pure male. Si è montato la testa, pensava di essere invincibile. Lo so, ho capito, ma amico mio, poi paga. È finito pure morto in Tunisia, Craxi. Adesso Iachini si starà grattando i coglioni, scusami se te lo dico. No. Sta lì così col grattino così, amico mio. No, adesso che hai detto così, tocca ferro, fai gli scontri. Mamma mia. Voglio bene Iachini perché è figlio mio. Lo so, amico, però gli hai detto che gli hai figurati se gli volevi male. Però tu devi sapere, David, che io sono stato durante le vacanze a vedere una partita incredibile, Lanciano-Livorno di Serie B. Tu dici, sei pazzo, beh. Ci sono dei miei amici che mi hanno portato a vedere Lanciano Livorno. Ho visto tutta la partita, abbiamo scherzato accanto alla famiglia di Francesco, l'allenatore del Sassuolo. che il quale, grande ascoltatore della Zanzara, magari sta ascoltando anche adesso, il quale gli ho detto: ma hai sentito lo sketch che fa Parenzo su Squinzi? Ogni volta fa la breaking news, faceva sul Sassuolo, dando le novità sul Sassuolo, sì, per essere servile di Squinzi, servile di Squinzi, no? Cioè leggeva tutte le ultime notizie sul Sassuolo. No, non è questa la ragione, è che la squadra dell'editore, quindi... Ma Vasquez lo vendi o no alla fine? No, adesso no, a gennaio no, a giugno vedremo. Quanto vale può, adesso? Ma può anche darsi che lui, essendo un estimatore del nuovo allenatore che arriva, voglia restare. Noi, ma lui, quanti soldi vale? Quanti soldi vale? Quanti soldi vale adesso? 30. Però, amico mio, su Dybala, avevi ragione tu, alla fine. Adesso ma io ho sempre ragione. Alla fine vale veramente un sacco di soldi. Ti mangi un po' le mani per quanti soldi... Adesso no, torniamo. No, non è vero. Sono felice per la Juventus, che è rimasta in Italia. E sono felice soprattutto per il ragazzo. Quanto vale adesso? 80? Mi ha fatto piacere il che doppio? Si è ricordato di me e mi ha mandato gli auguri, perché abbiamo sempre un ottimo rapporto. Aspetta questo, che torno. Questo eh? Sono orgoglioso. Nei miei giocatori rimango il papà. Aspetta che torno. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Allora, è con noi il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, autore dell'ennesimo show record a cacciare due allenatori dopo due vittorie. Devo dire che è un record che difficilmente verrà raggiunto, caro Maurizio. Entrerai nella storia anche per questo. Lo penso anch'io. Capito, lo pensi anche tu, sei consapevole. No, qualcuno dice che tu sei in realtà un benefattore, lo dice il presidente. Io sto pensando a questi due allenatori che adesso se ne andranno per l'Europa, nel mondo, a fare i corsi, quei soldi miei. Appunto, stai pensando, avvicinati un po' di più al microfono perché se no si sente poco. Quanti allenatori stai pagando? Due? In questo momento due, con quello che arriva tre. Con quello che arriva tre. Dunque, facciamo un po' di conti. Quanto sborsi all'anno? Ma Iachini guadagna 800.000 euro, per cui avanzano ancora la metà. Avanzano la metà. Poi Ballardini, quanto gli hai dato? Ballardini guadagna 300, per cui avanzerà ancora così. 200. Dunque, siamo a 700-800.000, diciamo, sì, in tutto. Sono buttati via. E quello nuovo? Quello nuovo, tutto lo staff, tutto intero, sono 5 persone, guadagnerà 1 milione all'anno. Un milione all'anno. E Viviano era già pagato. Viviani, là, come si chiama. Per cui, alla fine, st'operazioncina ti costa, per adesso, ti costa fino alla fine dell'anno... Mi costa 600.000 euro in più. 600.000 in più. Un milione, no, forse un milione, qualcosa in più. Dai, un milioncino. Un milione in più. Meno. Hai buttato un milione di euro, in pratica. Però c'è il presidente del Palermo che non guadagna niente. Vabbè, non guadagna niente, c'è manca pure... I presidenti prendono lo stipendio, no? Io non ho mai preso niente, ho solo tirato un po' di soldi. Senti, ma se vai in B, che succede? Non vado in B. No, ma che succede se vai in B? Cioè, non vado in B. No, non vai in B, vabbè, d'accordo, non vai in B. D'accordo. Sì. Ma se mettiamo, tocchiamo... Se vai in B, che succede? Non vai in B, tutto, non andrò più in B. È fuori discussione, c'è cioè una cosa che sicuramente. Non riesci nemmeno a immaginare, a pensare. Io penso di avere una buona squadra, non è certa, ma una buona squadra. Con gli innesti che stiamo facendo adesso a gennaio, sicuramente sarà una squadra molto più buona. Quanti ne prendi come numero di giocatori? Numero? 5. 5 ne prendi? Ne sono usciti 4, ne prendono in più. 5 ne prendi, Ne prendi 5, vabbè. Comunque, ragazzi... Ma ne sono usciti 4, perché Ballardini ha messo fuori rosa 4 giocatori. Lo so, tu li lasci fuori rosa? No, due sono andati via. Un altro se ne andrà e Maresca oggi è entrato in rosa. Però comunque ne prendi 5 di giocatori? Sì, sì. Prendi 5 giocatori. Quanto spendi per questi 5? Quanto vuoi spendere al massimo per questi 5? Il minimo possibile, però spendo. Spendo? Non lo so. Non lo dire, perché li sto trattando, sono già arrivati. Nel complesso, tutti, quanto vuoi spendere? 2-3, ma io penso una decina di milioni. Penso. Una decina in tutto? No, poi stai trattando, per carità, eccetera. Senti, ma un'ultima cosa, ma questi nuovi che dovrebbero prendere il Palermo, chi sono, argentini? No, non c'è neanche uno di argentino. È solo l'allenatore argentino, ma non c'è neanche ma perché ho capito, ma da chi sono, perché questo qua ma è ho preso il centravanti ungherese. No, ma questi nuovi che hai detto che ti aiuteranno, eccetera, no? Che No. E chi sono? Di che nazionalità sono? Ma sono un gruppo di un fondo dove un fondo ci sono varie nazionalità. Ma il fondo che è? Un fondo arabo? Un fondo internazionale. Un fondo. Comunque mancano posti di lavoro e Zamparini, ragazzi, è un benefattore assoluto. Voleva prendere addirittura un nuovo presidente Trapattoni, no? Cioè, io gliel'ho proposto perché... E ha detto di no. è una persona che stimo, pensavo non era tipo... E perché ti ha detto Perti, di no? Boniperti, perché lui pensa ancora di allenare, è un allenatore, e pensa ancora di allenare qualche nazionale. E chi vuoi prendere? Chi puoi prendere come presidente? Ma non so, adesso quella era un'occasione, perché io stimo molto Trapattoni, oltre che come allenatore, come uomo, sai, bisogna avere un uomo, no? Vabbè, prendine un altro, dai, prendine un altro. Ci penserò, ci sto pensando. Zoff, chiedi a Zoff. Bellissimo, poi è friulana come me il suo paese, appunto, ma a 15 km da me, si è appena rimesso dalla malattia, prendi Zoff come presidente del Palermo. È uno spunto che mi dai tu, vediamo. Assolutamente, cioè, assolutamente. Cioè, ti piacerebbe averlo come presidente del Palermo, Dino Zoff? Gli fai anche costo, lo conosco, soldi, lo conosco benissimo. Ma lo fai anche felice? Della Lazio, esatto, lo fai anche felice, secondo me, dopo un momento così. Secondo me sì. Lo fai felice, gli offri una cosa, presidente del Palermo, una cosa onoraria, pazzesca, il rappresentante del Palermo nel mondo, campione del mondo nell'ottantuale, ti ho dato un grande consiglio, Maurizio, un grande consiglio. Va bene, ti ringrazio. A presto, ciao, ciao caro. Ciao, ciao, ciao, caro, ciao. Allora andiamo in provincia di Bergamo, Fortunato. Ah, voglio dire una cosa, ragazzi. Usciti dal calcio, Zamparini, che è il recordman del presidente che licenzia gli allenatori, ne ha licenziati due che avevano vinto le partite, una cosa quasi incredibile. E ha definito Iachini, il suo ex allenatore, come Craxi, uno che si è, no? Uno con un ego spropositato, diciamo così. Detto questo, e tornando alla politica, caro Parenzo, c'è una cosa che mi ha fatto impazzire. Adesso tu sarai d'accordo, lo so, perché queste cose ti piacciono, queste cose sociali ti piacciono. Su quale sei d'accordo? No, sei d'accordo su questa proposta di legge che hanno fatto alcuni deputati della formazione Podemos, quella guidata da Civati, dal signor Civati. Ah, sì, sì, sì, sì. Tra cui Civati stesso, primo firmatario, che vogliono ridurre l'IVA sui pannolini. Sugli assorbenti, anzi no sui pannolini, sugli assorbenti, cioè gli assorbenti e similari. No, non ridurre, non bisogna abolire. Ridurre, sì, ridurre l'IVA passare, dal 22 dal 22 al 4%. Mi sembra una proposta ottima, intelligente, considerando il fatto che sono beni di primissima necessità e quindi non si capisce perché lo Stato bene di prima necessità, ragazzi. Ma che vuol dire bene di prima necessità? Ci sono tante cose che sono bene di prima necessità. Ma se si tratta di pagare un po' di soldini in meno. La nuova sinistra, una delle proposte che fa in Parlamento è ridurre l'IVA sugli assorbenti. È molto concreta, compagni, avanti il gran partito. No. Certo, mi sembra più concreta del sol dell'avvenire, diciamo. Mi sembra di sì, più concreta del sol dell'avvenire. Ma io dico, mi fa impazzire questa cosa a me, che in Parlamento, a parte che proporre una legge non serve. Basta, come dire, in qualche modo. Basta farlo, però. No, basta farlo. Se ma... non l'hanno messo in finanziaria, scusami, sì, che magari non l'hanno accettato. Vabbè. Non è importante fare la proposta di legge e con le carte bollate. Ma no, fanno un po' di pressione mediatica, articoli, eccetera. Ma non è che attraverso una proposta di legge si cambiano le cose, perché poi ci vuole, ovviamente, bisogna insistere sul governo, rompere i coglioni al governo. Poi basta, penso, un provvedimento, no? Cioè, non un provvedimento, non una un disegno cosa di legge. Una cosa non esclude l'altra, probabilmente. Può far ridere, sicuro. Fortunato, provincia di Bergamo, dai. Pronto? Dimmi. Chiamavo per le nutrie. Le nutrie, sì, dimmi. Sì, Lombardia non sono 5 milioni, forse sono meno, ma comunque il problema è molto serio e va affrontato su scala nazionale, anche perché la normativa non è chiara. Paesi come l'Inghilterra hanno già risolto il problema anni fa con la completa eradicazione delle nutrie. Mm. La nutria è un animale che è originario della Patagonia, che è stato importato in Italia per fare delle pellicce. Sì. Vabbè, poi, Fortunato, però qual è il punto? Tu che ruolo hai in questa storia? Che fai di mestiere? Io sono un cacciatore. Sì, le hai cacciate le nutrie ogni tanto? Spari alle nutrie? No, io non ho mai sparato, però ho degli amici che hanno costituito delle squadre che in collaborazione con la provincia vanno a titolo volontario a vedere di contenere questo fenomeno. Ormai le nutri sono alle periferie delle città. Beh sì, d'accordo, ma adesso non esageriamo, cioè siamo in, no, come dire, dobbiamo avere paura di un'invasione delle nutrie? ci sarà un, se non facciamo qualcosa ci sarà un'invasione delle nutrie. Beh, è bellissimo, come quei cartoni animati in cui c'è l'invasione dei topi nelle poi città. Però non ci sarà più il piferaio, che abbiamo visto che... L'invasione topi, delle no? nutrie, meraviglioso. Ma non è utopia, è realtà. No, no, ma me lo dici tu che sei un cacciatore, presidente di un club di caccia, forse, no? Mi dicono qua. Sì, questo è un problema però. Presidente provinciale dell'Associazione Cacciatori Lombardi. Cosa cacci su, Fortunato? Io sono un cacciatore ad appostamento fisso, ma non disdegno anche altre forme di caccia. Per me la caccia è un'arte nobile. No, a me lo dici. Come sai, io sono un grande sostenitore della caccia e difendo i cacciatori contro... Questo te ne rendo atto, anzi io proporrò di premiarti. Se, ottimo, accetterò questo premio con grande allora slancio. Sei già invitato dall'Associazione Cacciatori Lombardi, noi avevamo già intenzione di darti un riconoscimento. Ottimo, mi sembra ottimo. Per il tuo sostegno di fronte al pensiero animalista imperante. Assolutamente, guarda, sono molto contento se mi darete un premio, non lo so, adesso ovviamente fate quello che volete. No, te lo preannuncio. Oh, come sono contento, caro Parenzo. Sarò, come dire, premiato dall'Associazione Cacciatori Lombardi. Bellissimo. Esatto. La caccia è una cosa nobile, i cacciatori amano gli animali più degli animalisti. Molto hai più hai degli animalisti. Il premio, basta, non occorre adesso fare ancora. No, ma molto più degli questa cosa mi fa incazzare a me. Quando attaccano i cacciatori dicendo che ammazzano gli animali, dunque c'è una contraddizione in questo, c'è una contraddizione col fatto che amano gli animali. Invece è esattamente il contrario. Cioè, sono cacciatori perché amano la natura e gli animali. Poi sì, cacciano, ammazzano degli animali, ma gli animali si muoiono gli animali come muoiono gli uomini. Cioè, gli uomini muoiono per le malattie, gli animali muoiono per le malattie e perché vengono sparati, vengono ammazzati dai cacciatori. E poi ovviamente ci sono dei limiti, delle leggi pazzesche, anche molto ferree in alcuni casi, eccessivamente ferree. Sulla spesso caccia. Vengono violate. Scusa, Fortunato, leggi, che no? Cos'è che ti piace cacciare di più a te? A me piace cacciare il tordo, sì. La cesena, sì. Il merlo, sì. Tutti uccelli migratori, sì, il merlo. Che, e poi mangiarli con la polenta osei, sì. È un piatto tradizionale. Ma pure il merlo si mangia? Pure il merlo si mangia? Il merlo si mangia, sì. Ma ed è buono. Cosa ne dici degli storni a Roma? Gli storni a Roma, amico mio, che c'è uno che sparava ai piccioni con l'altro giorno. Però da casa non è che si spara. Da casa con no, non va fatto così, però. Meno male, va? Il problema del guano. Vabbè, non il è che problema può, degli che incidenti, 4 milioni di storni. Sì, vabbè, e sai che gli storni non sono una specie cacciabile? Nonostante ce ne siano milioni. Tu spareresti a tutti gli storni che vedi in giro, no? No, lo storno è stato cacciabile fino a... No, ma tu spareresti, agli storni così, o no? No. Senti, Fortunato, però voglio sapere una cosa, ma tu la caccia quella in Africa l'hai fatta o no? No. Mai? Non mi piacerebbe, no. No, non sono per questo tipo di caccia. Mm. Anche se difendo ogni forma di caccia, purché sia regolamentata. Vabbè, e nel chiaro. Rispetto delle leggi. Allora, Fortunato però ci ha, come dire, un po' messo paura, Parenzo. Io non ho paura di nulla, figuriamoci se ho paura dell'invasione delle nutrie. Però ci ha detto che se non interveniamo siamo in attesa di una specie di... Abbiamo le nutrie praticamente quasi in casa, ai confini delle città che potrebbero... Cioè, descrivete queste nutrie come l'Isis, però. Guarda che veramente è un linguaggio... è incredibile. Cioè, come al-Baghdadi, il capo delle nutrie... Sono delle nutrie, ragazzi miei. Ma hanno dei capi le di nutrie? Di cosa parlate? Magari sono intelligenti, hanno i capi. Ma di che parlate? Sono delle nutrie, l'invasione delle nutrie. Fortunato, sono le nutrie porte. Hanno dei capi? Ogni femmina di nutria partorisce 15 nutrie all'anno. Ma guarda che c'è da preoccuparsi. Se moltiplicate 1 milione di nutrie che ci sono in Lombardia. Di cui non so quante femmine, ma penso che sia... Sì. Ma chi è che deve intervenire? Non capisco. No, chi è che dovrebbe moltiplichiamo e diventa un numero pazzesco. Ma e chi? L'esercito, il governo, la protezione civile? Chi è che deve intervenire? Armiamoci e spariamo, dai. Armiamoci e spariamo le nutrie. Il corpo forestale potrebbe intervenire. I siccome cacciatori potrebbero essere a supporto. I servizi della regione. Vabbè, che le ronde padane. Io suggerisco che le ronde padane almeno fanno qualcosa. Fortunato, grazie, no, a presto. No, le ronde padane. Aspetto, Fortunato, aspetto il premio, a presto. Ciao. Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da Festival dell'Ovvietà. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora andiamo a Napoli, Antonio, vai Antonio. Buonasera, buonasera. Dimmi, volevo dimmi. Parlare per i fatti di Colonia. Sì, dimmi, dimmi. Allora, quando non ci sono i gatti, i topi ballano allora? Cioè? Hitler. Dunque? Se c'era lui, tutto questo non sarebbe successo, signori. Perché? E sai, l'avremmo andato a fare un culo a fare un giretto nelle camere. Non ho capito, scusami. L'avremmo andato a fare un culo e un giretto nelle camere. A chi? A sti negretti, no? Ai negretti, che vuol dire ai negretti? A chi? Ah, cioè agli stupratori di Colonia, dici tu? Cioè li mandava nelle camere a gas. Poteva starci una mia sorella, una mia mamma, no? Sì, vabbè, può darsi. Sì, allora? Giusto? Sì, allora? No, giusto, nulla giusto. Cioè questo imbecille da Napoli. Imbecille? Questo imbecille, perché per ora non posso dire altro alle 20:17, ma direi altro. Questo imbecille tal Antonio da Napoli, in diretta radiofonica, invoca il ritorno di Hitler e delle camere a gas dopo i fatti di Colonia. Questo signore è un emerito idiota. No, scusa, Antonio, che cosa c'entra però Hitler con il rimedio Hitler con quello che è successo a Colonia? Spiegami. Ho detto che Hitler faceva rigare tutti, no? Ma non faceva rigare tutti, amico mio, Antonio, dai. Vedi su, che è un imbecille, non fa rigare discutere, tutti, è un imbecille. Hitler era un dittatore criminale che ha ammazzato un sacco di gente. Poi ma non storia... puoi spiegare a un idiota un'idiozia. Io ti ammiro, Cruciani, ti ammiro perché sei sempre dalla parte del giusto. No, come ma non le ha dato ragione, caro Antonio. Mi pare che il signor Cruciani non ti ho dato ragione, non le abbia dato ragione, sa, rispetto alla enorme stronzata che ha detto. Non le ha dato ragione. Vabbè, non ho ha capito. Detto ragione, allora, Antonio. Si può criticare la Merkel per la politica di accoglienza? Ma per non aver ha detto fatto... questo, sto signore. No, lo so che non ha detto questo. Si può criticare anche il New York Times. Pensa un po' che citazione ti faccio, Parenzo. Come sai, ha criticato fortissimamente la politica di immigrazione sconclusionata della Merkel, che ha portato secondo gli americani, secondo i signori del New York Times, ha portato a quello che è successo a Colonia. Si può criticare anche quello che scrive il New York Times, naturalmente, come è ovvio. Antonio dice un'altra cosa, ecco. Che ci vuole il metodo Hitler, appunto. Che si stava meglio quando c'era Hitler, che risolveva queste cose piuttosto rapidamente, giusto Antonio? Certamente, signor Cruciani. Certamente lei è un idiota. Stoccarda dice che non si capisce un emerito cazzo là. Sì, ma ho capito, tuo fratello abita a Stoccarda, che cosa ha fatto fratello? Si augura il ritorno di Hitler, forse? No, lui, diciamo, lavora in un negozio di nazifascisti, diciamo. Ah, ecco, che vuol dire un negozio di nazifascisti, amico mio? Dai, vuol dire che in famiglia ci sono due idioti, in genere ce n'è uno. Vabbè, Antonio, cosa vuol dire? Vuol dire che il fratello dell'idiota... Vuol dire che la sera si stanno riunendo, parlano di come, diciamo, un giorno tutto questo potrebbe cambiare. Vabbè, ma insomma andiamo. Mi sta dicendo che ci sono movimenti neonazisti. Diamo dei numeri di telefono alla polizia tedesca, però a questo punto, no? Informiamo i signori tedeschi che c'è una rete internazionale, esatto, che parte da Napoli di neonazisti. No, informiamo che il caso di due su due, due idioti, due, uno sta a Napoli, il fratello sta a Stoccarda. Due idioti, due su due in una famiglia è un bel percentuale. Vabbè Antonio, come vuoi concludere questo tuo brillante intervento? Dico, allora, prima di tutto Cruciani sei un grande, e poi seconda cosa, Merkel se ne deve andare il più presto possibile. Ma che te frega a te della Merkel? Stai a Napoli, Antonio, cioè, che te frega? Pensa ai problemini che ci sono lì, guarda amico mio, fidati. Pensa ai problemi che ci sono lì. Vabbè, Roberto da Milano, dai Antonio. Roberto, dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao ragazzi, allora... Per quello che riguarda la storia della signora Izzo, del lifting e tutte queste cose qua, come la persona che aveva chiamato ieri sera, sì. Per me ognuno può essere libero di fare quello che vuole del proprio corpo, però vorrei puntualizzare una cosa, che se ci fossero delle complicazioni in queste cose qua, chi le paga? Il Servizio Sanitario Nazionale? Non lo so, vorrei che voi lo domandaste, guardi, a queste guardi, persone. C'è un'assicurazione? Guarda Roberto, io credo molto semplicemente che la signora Izzo i suoi interventi se li sia pagati da sola. No, io non sto parlando dell'intervento, può spendere tutti i soldi che vuole la signora Izzo. Ma quando ci sono delle complicazioni... Ma non lo so, le complicazioni... In futuro, di queste cose qua, chi le paga? dove va una persona allora, quando, come... E allora bisogna anche responsabilizzare questa persona e dire, vuoi farti per vanità, puoi farti quello che vuoi, ma se ci sono delle complicazioni puoi metterti tutto il silicone che vuoi nel culo, nelle labbra, però io non voglio pagare il Servizio Sanitario Nazionale per poi riparare cose. Io spero che si faccia un'assicurazione. Cioè, tu stai dicendo che la chirurgia estetica può produrre dei danni che poi certo si ripercuotono sul Servizio Sanitario Nazionale, perché poi uno... Vabbè, ho capito, questo però tu, io non lo so. Anche se uno compra, so. Anche se uno compra, scusami, però anche se uno compra un'auto veloce, un'auto super veloce, e poi ha un incidente, questo incide su... Anche se uno va a sciare e magari non ha... Ma ci sono delle assicurazioni parallele, no? Ci saranno delle, ci sono, uno si ma ci sono delle, delle assicurazioni ma anche c'è sulla... gente che beve, che è etilica, che si droga, ma questo sono d'accordo. E ma allora... comunque, in ogni caso, e allora, in ogni caso, questo è una cosa che comunque va comunque chiarita, cioè nel senso che se ci possono esserci complicazioni, è chiaro, uno va a sciare, posso, responsabilità è tua, ma il medico a quel punto lì, il chirurgo, deve dire, ci potranno essere delle complicazioni, e lui lo può, deve sapere. Va bene, Roberto, questo mi sembra una minchiata, dai. Un altro, no, Roberto da Milano, dai, Roberto. Pronto, buonasera. Dimmi. No, mi aggancio alla considerazione dell'intervento poco opportuno di Renzi riguardo la sindaco di Quarto. Sì. Visto che lui la legittima perché è stata messa lì dai cittadini, sì, mi viene spontaneo chiedere, e lui chi lo ha messo lì? Perché se... Sì, sì, no, ma hai ragione su questo. Io credo che Renzi abbia sbagliato a intervenire su Quarto. Tra l'altro, siccome è un piccolissimo paese della Campania, è vero che è diventato un caso nazionale perché c'è Di Maio che è campano, c'è mezzo direttorio dei 5 Stelle che sono tutti... della Campania, è diventato un caso nazionale, il Presidente del Consiglio però se ne deve fottere di queste piccolezze, no? Di queste piccole cose. Ora, siccome c'è il Movimento 5 Stelle leggermente in difficoltà su questo, Renzi è andato giù e ha detto che... Beh, non ha... Diciamo che la questione è anche politica, perché lo scioglimento di un comune... Lo sappiamo. Quindi l'ipotesi di scioglimento di un comune per mafia, vabbè, ma ha non è anche questo, un interesse cosa, del governo. Una cosa formale. No, non è formale per niente. Dei cittadini, quando poi lui è lì votato da nessuno. Sì, ma il problema è quello. Io sono d'accordo. Ma chi decide lo scioglimento di un comune? Adesso per questo non c'entra una mazza. Non è per questo che è intervenuto ora. Sì, dai, posso su. Posso dire un'ultima questo. Cosa? Ma figuriamoci, dai. Dimmi. Pociani, Roberto, dimmi. Ricordo solo una cosa che dico sempre quando ho la fortuna di poter intervenire. Aboliamo il gruppo misto. Aboliamo il gruppo misto, vabbè, ma un po' chi se ne frega anche di abolire il gruppo misto. Cioè, se uno lascia il suo gruppo parlamentare, ragazzi, che cosa dobbiamo decidere? Che si deve dimettere se uno lascia il gruppo parlamentare in cui viene eletto? Decidiamo questo, per me va benissimo, non c'è nessun problema. In Italia, caro Parenzo, c'è un ente, il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è un ente fantasma. Soppresso dalla riforma costituzionale, ancora galleggia lì perché la riforma non si è conclusa. I suoi dipendenti, ridotti ormai a poco più di 60, sono dei dipendenti fantasma. Non fanno una mazza dalla mattina alla sera, eppure continuano a percepire lo stipendio, in alcuni casi dirigenti pagati anche 200.000 euro l'anno. Ho un'idea. Aspetta. Chiediamogli un parere. Quanto costa il CNEL? Costa 20 milioni l'anno e non riusciamo ancora ad abolirlo definitivamente. Recentemente è uscita una notizia, come sai. Il CNEL, in attesa di chiudere, si regala premi di produzione. I suoi dirigenti prendono dei soldi in più ogni anno per le produzioni che fanno. Cosa significano queste produzioni? Il CNEL, in una sessantina di anni di vita, ha proposto solo 14 leggi. Ogni tanto dà dei pareri che non ascolta nessuno. Questi dirigenti prendono il premio di produzione, ma sono nulla facenti. Ne abbiamo chiamata una. Eccola qui. Pronto? Venturi? Sì. sono Cruciani, Radio 24. Scusi un attimo, il CNEL non fa più niente e voi prendete i premi di produzione lo stesso? Allora, permetto subito che il premio di risultato del 2015 non è stato erogato. Comunque, guardi, siccome so che Uso si fa delle dichiarazioni, non sono autorizzata a rilasciare dichiarazioni. No, che Uso si fa? Nessun no, Uso. Sto dicendo, lei è uno dei dirigenti più importanti del CNEL? Siccome è uscito uno dei dirigenti più importanti, siamo tutti uguali, guardi. Beh, tutti uguali, tutti dirigenti. Nessuno è uguale a un'altra persona, per fortuna. Le assicuro. So che nel pubblico è così, però è vero che vi siete regalati. Ascolti, noi abbiamo un segretario generale, può parlare col segretario generale che saprà darle tutte le informazioni. Ma è vero che vi siete regalati dei premi di produzione pur avendo un... Non ci regaliamo nulla perché noi siamo pagati secondo la normativa vigente d'Italia. Sì, ho capito, ma nulla, noi abbiamo l'autonomia. Ma che premio di produzione ci può essere se uno non c'ha niente da fare? Io la invito a rivolgersi al nostro segretario generale che ha sicuramente le competenze e il ruolo per poter. Scusi, ma il premio di produzione è relativo a un lavoro, ma siccome il CNEL non ha più niente da fare, non capisco. Ma noi non ci siamo arresi, caro Parenzo, e a questo punto abbiamo interpellato direttamente il presidente del Consiglio dell'Economia e del Lavoro, Salvatore Bosco. Sì, pronto? Sì, pronto, Bosco? Sì, chi è? Salve, buonasera, qui Radio 24, disturbo? No, prego, dica. Senta, Bosco, volevo sapere da lei questa storia dei premi ai dirigenti del CNEL. Non è stato pagato nessun premio e tantomeno è previsto per adesso di pagare il premio. Poi questo che viene chiamato premi sono una parte del salario che viene pagato con la produttività. Sono previsti. Sono previsti. Ah, ecco, scusi, come fa a essere previsto un premio mentre l'ente praticamente non funziona più, non lavora più? Perché questo rientra nel contratto dei pubblici dipendenti, tutti dei diritti. Ho capito, che premio produttività è se non si produce nulla? Questo non è che dipende da me, bisognerebbe cambiare la legge però lì. Senti come si arrampica, senti come gratta. Chiuso il CNEL. Che il dottor Salvatore Bosco, amico della Zanzara. Io faccio il pensionato. Lei prende lo stipendio da presidente? Beh, certo. No, io non prendo una lira, assolutamente niente. Zero. Gratis. Non c'ho indennità, non c'ho nulla, non c'ho rimborsi spese, viaggio con la mia macchina, col taxi, quando mi devo spostare con la mia spesa e tutto il resto. Se non è pagato, il CNEL praticamente non funziona più, non lavora più, che ci va a fare in ufficio? No, non è questo, non è vero che non funziona più. Il CNEL continua a fare tutto ciò che la legge stabilisce che deve fare. Cioè nulla praticamente. Noi pertanto abbiamo dato un parere adesso sulla legge di stabilità. Poi teniamo aggiornato l'albo nazionale di tutti i contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, periferici. Ma i dirigenti pagati invece che fine faranno un domani? Vanno alla Corte dei Conti. Vanno alla Corte dei Conti. C'è scritto che il personale, quando c'è scritto espressamente. Però mi scusi, perché un'azienda privata quando fallisce la gente va a casa e invece quelli là rimangono dipendenti? Beh, questo non me lo deve domandare a me, lo deve domandare al Parlamento. I dirigenti meritano quel premio? Meritano il premio del 2015 o no, secondo lei? Secondo in coscienza, lo meritano o no? Ma io adesso sinceramente questo non posso dirlo, perché chiaramente non posso fare una valutazione dirigente del dirigente con l'attività che ha svolto l'anno passato. Ho capito, ma ogni anno... organismo competente in materia, questa non è materia che compete al presidente. Io devo portare il CNEL allo scioglimento. Mamma mia ragazzi, ma in Italia è veramente impossibile riformare qualcosa, cioè uno decide che il CNEL scompare. Io ripeto sempre la stessa cosa, anche a quelli che intervistiamo, perché se fallisci un'azienda privata uno va a casa e invece se uno decide che il CNEL o un altro organismo qualsiasi dello Stato deve scomparire, la gente non deve perdere il lavoro? Io perché non è che sono a favore della perdita del lavoro, però mi fa impazzire questa cosa qua. Mi fa impazzire il privilegio di alcuni rispetto agli altri. Mi fa impazzire. Vabbè, ma Parenzo lascialo perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce in casa. La Zanzara. Minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Sì. l'unica volta che ho versato lacrime per un VIP è quando se n'è andata la nostra cara Moana Pozzi. Gaspari, il problema non è che non conosci Jim Morrison, il problema è che vaghi per i social network senza distinguere una bufala da una cosa reale, quindi fai la figura del pirla, questa è la cosa. Aiutatemi, sono in macchina con la mia amorosa e sto qui a fare scorregge e lei si arrabbia. Volete spiegare che la scorreggia fa parte della vita? Certo che la gente ne sta buona di gocce. Madrin, questo è, sta peggio dei parenti. Oh, ma tanto è Alberto da Roma, oh, ma tanto è Donato da Varese, ma tanto è quello da Roma, da Bari, da Cosenza. Ma tu, Parenzo, chi cazzo ti credi di essere? Ma chi cazzo ti credi di essere? Tirati via l'iPad davanti il muso, poi vediamo quanta argomentazione sei in grado di sostenere. Caro il mio Parenzo, vieni tu a fare strada in mezzo alla camorra e in mezzo all'andrangheta in Sicilia e in Calabria. Vieni, bello, vieni. Vediamo come ci riesci, tu e tutta la tua comunità, vieni. Luciani, ma ti meravigli che l'Osservatore Romano abbia elogiato David Bowie, che si drogava, andava a trance con uomini, super promiscuo. Ma perché la Chiesa non fa queste cose? Beh, effettivamente questa qua è una chiave di lettura originale, no? Cioè, il Vaticano esalta David Bowie, o esalta, insomma, l'Osservatore Romano, perché le stesse cose le fa di nascosto, cioè la promiscuità esiste un po' nascosta. Devo dire che questo spaccato di Radio VC... Non è Radio VC, è Radio Viscere, è Radio Viscera, è Radio Viscera. Di Radio Latrina... Devo ma dire non che alle è volte, Radio Latrina, alle dai. Volte, oltre al cattivo odore, c'è anche qualche bel marmo, poi, ecco, qualche bel sanitario. Un altro dice quella di Quarto si deve dimettere per non farsi strumentalizzare dal Partito Democratico, il che potrebbe anche essere vero secondo il tatticismo politico, no? È vero, cioè, perché no, per evitare, ma non è in ballo questa cosa, ma no, so. Cioè, è Camorra, è il comune infiltrato, sì o no? La sindaca, come risulta, solo questo dico io, come risulta dagli atti, sì, che lei ha messo in pratica fino ad oggi, ha fatto qualcosa per favorire qualcuno, quello dei funerali, sì o no? Fine, solo questo. Ma i 5 Stelle non basta questo qua, evidentemente. Vogliono una purezza totale. Ma cosa vuol dire? Una purezza. Cioè, secondo si loro questa doveva denunciare con subito. Le loro regole, doveva denunciare subito, eccetera, eccetera. E poi a noi il marito della signora ci ha detto che questa qua si potrebbe dimettere. Pigliamo sul serio questa cosa qua. Per lei lo stress, nega, però. Lei nega. Però il marito ci dice: guardate, questa qua è stressata e si potrebbe dimettere. Io sono molto felice perché. Non ha detto questa qua. Beh, no, questa qua lo dici tu, questa qua. Francesco da Como, vai, Francesco, vai. Giuseppe, ma io vorrei sapere quanti cazzo di pannolini ti sei comprato tu nella vita. Quanti pannolini hai? Ne ho comprato una, ho una figlia, quando era necessario l'ho comprati. Ma l'hai comprati mai con una? Io ho quattro figli, cazzo, sto spendendo un capitale. Bravo, di pannolini. Bravo, non so neanche quanto certo costano, che... Cruciani, un pacco di pannolini, non lo ma so, non l'ho mai fatto. Non lo ricordo più, è 10 anni fa, non lo sai. Ma un pannolino costa 2 euro, ma te li devi comprare per forza per i figli, non è che puoi decidere se comprarli o no. Guarda che non è in discussione questo, in discussione è un'altra cosa. È abbassare l'IVA, quindi cosa? L'IVA, certo. Non sui pannolini, amico mio, sulle cose, sugli assorbenti, sugli assorbenti. Ma andrebbe esteso anche ai questo pannolini. Lo dici tu? No, dai, beh, sì, vabbè, c'è, chi lo dice? Certo, lo dico io. Vabbè, ma è chiaro che anche i pannolini. Ma allora no, perché non lo facciamo sul Viagra? Cioè, allora perché non diminuiamo l'IVA sul Viagra? No, perché ha bisogno... Che cazzo di paragone è? Scusami, no, il Viagra, ma allora per me è essenziale il Viagra. Per me è essenziale il Viagra. Per me è una cosa irrinunciabile il Viagra. Se te lo prescrive il medico lo puoi pagare. Ma scusami, ma questo qua è un tuo problema, che per te è essenziale il Viagra, ma non è un problema della comunità. Non è che tutti quelli fanno dei figli che devono usare i pannolini. Ma io ti dico di più, ma che cazzo vuol dire che i libri devono avere l'IVA 4%? Scusami. Cosa? Ma che cazzo vuol dire? I libri hanno l'IVA 4%. Ma guarda, che c'è, scusa? Guarda, amico mio, a parte qualsiasi cosa viene fatta per abbassare le tasse, va bene per me. Il problema fondamentale è un altro. Però se si comincia a distinguere quello è fondamentale e quell'altro non è fondamentale, adesso ogni cosa può essere considerata fondamentale. Ma no, è una scelta politica, allora, ragazzi, è evidente. Per ma me... non ogni cosa, sono delle scelte, no? Sì, scegliere di aiutare alcuni centri sociali è una scelta. Scegliere di abbassare le tasse a qualcuno allora, è una per scelta. Per me bisogna, bisogna avere il Viagra. Per me il Viagra è fondamentale. L'attività erotica è fondamentale. L'attività erotica sessuale fondamentale, e allora abbassiamo l'IVA al 4% sul Viagra, sul Cialis, su tutte queste robe qui, tutti gli oggetti, perché non anche sui vibratori? I vibratori sono che essenziali, che non è un genere di prima necessità, ma è per molte, per molte persone un genere di prima pagano necessità, e se lo pagano per intero con l'IVA al 4% se allora, lo pagano dai, per adesso intero. Lascia perdere, forse i vibratori no, ma il Viagra guarda che ci si può pensare, allora dai, non dire stupidaggini, dai. Allora, caro Parenzo, ti presento una persona che non so che lavoro faccia, in realtà, se non la scrittrice fa, e ha tradotto un libro tempo fa da un titolo che ha un titolo molto molto chiaro, molto molto sintetico, La zoccola etica, edizione Odoia, un anno fa, un anno e mezzo fa. E questa ragazza si chiama Giorgia Morselli, è stata sposata, eccetera, eccetera, e vorrebbe avere una relazione poliamorosa, cioè non è proprio una rappresentante del poliamore, non è che il poliamore ha dei rappresentanti. Strano che questo libro non lo trovi la domenica in allegato col Sole 24 Ore, ad esempio domenica scorsa io ho comprato il Sole ho trovato in allegato La zoccola etica. Giorgia, buonasera. Buonasera, dal Viagra al poliamore il passo è breve. Come stai? Bene. No, mi chiedevo come sareste arrivati a introdurre questo argomento, visto che un quarto d'ora fa parlavate di tutt'altro. Ma noi facciamo così, da un argomento all'altro, ma il poliamore ci attrae molto, almeno mi attrae molto. A Parenzo fa schifo questa opportunità, questa possibilità. Schifo non userei mai questo termine. Ti fa schifo, dai, diciamo. Mi fa felice che ti renda felice. No, io sono nella stessa situazione di Giorgia, diciamo. Vorrei intraprendere questo percorso. Vorrei, ma non posso. No, non posso, non lo so. È diverso, cioè non è difficile trovare persone che sopportano questa cosa qui, giusto Giorgia? Sì. Sì, sì, no, io ho cominciato a fare attivismo in realtà anni fa, proprio insieme ad un'amica, perché attivismo del poliamore, fantastica questa cosa. Sì, sì, sì, cioè diffondere il verbo. Diffondere il verbo del poliamore. Nonché trovare persone con una visione affine, perché la sensazione era sempre altrimenti quella di pescare nello stagno sbagliato. Beh, Parenzo, qual è la base? Ma sono molto davvero curioso. Quindi quali sono però i due, ricapitoliamo, tre ricapitoliamo i pilastri. Le relazioni poliamorose si definiscono tali se coinvolgono più di due persone, sono consensuali sono vissute in trasparenza, cioè tutti sanno chi sta con chi, cioè nel senso tutti sanno che c'è una situazione di non monogamia, poi il livello di trasparenza insomma si concorda, quindi di poligamia. No, non è cioè nel senso la non monogamia è già molto diffusa, lo sappiamo, quindi una sorta di poligamia. Vedo giornale di Sallusti. No, la ma già visto. L'islamico Cruciani. Espresso hanno detto che a loro piace di più la tradizione, fare le cose di nascosto. Beh, questo però. Al suo tempo si è espresso quando è uscito il libro. Scusa, cioè, la signora Morselli è per la poligamia. Lei è islamica. Non è per la poligamia, è per il poliamore. La poligamia è un rapporto sancito istituzionalmente e di solito per ragioni religiose, e non è tanto bello ma perché non cambia la proporzione. Molto. No, cambia molto. No, cambia moltissimo. Come no? Cambia moltissimo. Cambia moltissimo. Spiegaglielo tu. Tengo, perché questo è sempre un equivoco. Spiegaglielo tu, Giorgia. Perché non lo pratico, ma. Nella poligamia c'è una persona di un sesso insieme a più persone dell'altro sesso. Esatto. E di solito questa situazione non si stabilisce spontaneamente, si stabilisce perché ci sono delle leggi di solito religiose che stabiliscono. D'accordo. Questo e come sappiamo in genere è un maschio che ha a disposizione più invece nella situazione che lei propone sono ad esempio due coppie. No, ma noi stiamo dando del lei, no, perché io ho sbagliato tutto fino adesso. No, io le do del lei. Lui del lei, io del tu. Cruciale del tu. Allora lei quindi definisce situazione poliamorosa una situazione nella quale c'è una coppia, ad esempio c'è Cruciani e la sua ganza. Ma non necessariamente una coppia, possono anche non esserci coppie, possono esserci triadi o quindi un uomo con due donne o due donne, due uomini o persone, o magari io che sto con te e tu stai con altre tre persone, queste ognuno, cioè sì, sono beh, delle poi cose cosa succede? Importante è la trasparenza, no? Importante che tutto sia dichiarato, diciamo, no? Cioè non è tutti scopano con tutti, è questo che voglio dire. Non è solo questo. Delle volte c'è anche qualcuno che non scopa, nel senso che cioè non è detto che ci sia anche il sesso, come peraltro succede anche in molti matrimoni, non è detto che ci sia il sesso. C'è solo affetto in alcuni casi, c'è solo una relazione affettiva. O dei livelli di intimità che non rientrano in quello che di solito chiamiamo sesso, diciamo. Noi però la diciamo cosa fondamentale è che tu dici noi dobbiamo superare questa cosa della poligamia, della monogamia. Della monogamia. Ma sì, cioè nel senso che di fatto è questa, non è che ci si impone, ma oddio, non è che si faccia tanta fatica. Vabbè, cioè, delle come corna sappiamo, basta guardare le rubriche dell'Aspesi, cioè insomma le corna non sono corna cosa... legalizzate, corna legalizzate, no, ma non legalizzate, corna trasparenti, corna che poi non so, a questo non punto sono non... corna, esatto, non sono nemmeno corna. Beh, tecnicamente sono corna, però No, non sono corna perché non c'è nessun tradimento, cioè non c'è il tradimento. Il tradimento di non c'è. Ah no, certo, è vero. È perché se lo è dichiarato non c'è tradimento. Quindi, quindi Cruciani torna a casa, trova la sua fidanzata a letto con un altro. Sì. E non è una bella sorpresa, e non è sorpresa, una sorpresa perché lo so, perché lo so, capito? Ho capito. A te è successo qualcosa del genere, Giorgia? Di cosa? Di stare, cioè di vivere in una situazione poligamica, di vivere adesso non lo sei in questo momento. No, io non sono mai riuscita a stare in una situazione con il livello di trasparenza che volevo io, cioè mi è successo di stare con persone, magari io ero l'unica, io avevo un unico partner il quale aveva più legami e magari alcuni di questi legami sapevano che c'ero anch'io. Alcune di queste sue partner e altre, perché parliamo di situazioni eterosessuali, e però saltava sempre fuori a un certo punto una persona che non doveva sapere e allora io vivo e lì male crolla queste tutto, situazioni certo, crolla e quindi cioè, piuttosto sto single. E adesso sei single? Sì, sono single perché un po' perché io sono quella che nel gergo, perché c'è un gergo che mutuiamo dagli Stati Uniti perché lì c'è molto c'è molta il poliamore è molto produzione. Diffuso esatto. Sono una poliamorista solista, nel senso che la mia solista, preferenza è per relazioni non monogamiche, ma almeno in questa fase della mia vita, vuoi perché ho un figlio preadolescente che assorbe molto della mia affettività e potrebbe non accettare, diciamo, no? No, non solo, ma in realtà non tendo a non coinvolgere mio figlio in ogni caso nelle mie cose amorose, non è difficile. E un po' perché sono una persona con molti interessi e con molte passioni e anche con una vita non semplice. Vuoi stare da sola? Diciamo che non è detto che una persona con la quale instauro un legame sentimentale abbia per forza la priorità su mio figlio, sui miei amici. Cioè tu che tipo di relazione concepisci? Relazioni in cui che ne so, tu insieme a un uomo e voi due condividiamo qualcosa che può essere potete scopare anche con altri, dai, oppure potete avere affetti anche con quello sì, nel senso che io non mi sento sicuramente di non sono possessiva, non mi sento sicuramente di limitare. Cioè, se il tuo uomo, no? Se il tuo uomo ti dice, se il tuo uomo ti non dice. Non necessariamente un uomo. Ma un uomo, una donna, tu sei eterosessuale, sì. Comunque, se un uomo o una donna ti dice no, ti piacciono anche le donne? Dipende. Anche. Ti piacciono anche le donne? Beh, sei bisessuale praticamente. Ma mi piacciono anche le persone transgender, per cui andiamo un po' al di là. Sei oltre, diciamo, sei pansessuale, sei pansessuale, bellissimo, pansessuale. Ma a voi piace un mondo così? Ma dov'è? Dovresti parlare con Adinolfi, cara Giorgia. Dovresti fare così. Adinolfi, a voi piace un mondo così? Non è facile parlare con Adinolfi. Poi dovresti confrontarti. Ma dov'è la voce di Adinolfi? Voglio la voce di Adesso la mettiamo, adesso la mettiamo. Ma che è un bell'ambiente? No, quello è Taormina. Allora, però, Giorgia, che è diventata improvvisamente il mio mito dopo questa conversazione, dice di essere pansessuale, cioè non gli piacciono solamente gli uomini, anche le donne e anche altri generi, diciamo. Non gli animali, però. Mettiamo un limite almeno. Ma adesso, Davide, ma perché devi scendere così? Adesso vedi gli animali. So che non ti piace questo mondo pansessuale e poliamoroso. Non è vero che non mi piace. Non se uno piace. È felice, no, ma se uno è felice di applicarlo nella sua. Solo io sono libertario. No, io non lo, su di me è un modello che non potrebbe funzionare perché ci starei male. Ma la signora Morselli, a tutta la mia stima, si è trovato la sua strada. Ma tanto così. Si sta male lo stesso. Anche... Ma non è. Beh, ma io non se la signora Morselli dice che fa difficoltà a trovare questa condizione, evidentemente. Comunque, cara Giorgia, tu vorresti trovarti nella condizione. Non sono una che cerca la relazione per forza, se capita bene, certo. Se no ho delle altre cose da fare. Cara Giorgia, io voglio capire la tua relazione. Quanti anni ha la signora Morselli? 41. 41 anni. La tua relazione ideale è quella in cui il tuo uomo può tranquillamente venire da te e dirti: guarda, ieri sera mi sono fatto uno, mi sono divertito un sacco e ti racconta pure i particolari. È quella in cui io gli posso dire: guarda, stasera non sono disponibile perché c'ho da fare una ricerca sui cetacei dell'Antartico e tu ti prego però non stare allegato alle mie cose, vai pure a divertirti. C'è scopa, se vuoi scopa, se ma vuoi, mica necessariamente. Ma vedete come magari ha delle altre amori, scusate, uno può essere oppure innamorato vabbè, però di solito se uno poi esce con uno anche. Allora, ma esce con uno, ma cioè, in una relazione poliamorosa ci sono delle relazioni in atto, no? Per cui probabilmente mi piace pensare che ma tu ti senti zoccola, la parola zoccola ti dà fastidio? No, non mi dà fastidio perché ho un grande senso dell'umorismo e diciamo che quando viene usata come insulto vabbè, quello sì, d'accordo. Viene usata come accusa, ma io non riconosco il crimine che questa parola e che questa accusa identifica, per cui per me il crimine non sussiste. E dunque è una bella parola. Se uno mi dice che sono una zoccola, le dico sì. È vero, sono una zoccola. Cioè... Con orgoglio sono una zoccola. Beh, sì. Meraviglioso, ragazzi. Giorgia Morselli, la richiameremo. Grazie, a presto. Ciao, Giorgia. Ciao, ciao, ciao. Saluti. Vi piace un mondo così? Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Vabbè, oh, caro, arrenditi al fatto che si va verso la pansessualità. La pansessualità. Per un, datemi un secondo solo, vi prego. Datemi ci un vediamo stasera di martedì. Aspetta, no? Diciamolo. Ma che cazzo, devo andare di martedì. Vabbè, beh, bravo, vai a di martedì. Vai a combattere. 22... Regalaci qualcosa per domani. 22:20. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani. Avete rotto i coglioni. Ciao. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, quando lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.